giornata lì. Ciao. Franco Alfano, ciao. Sono solo io perché non è entrato nessuno ancora. Dopo pranzo è dura, Tutto bene? Sì, perché poi già lavoro ancora. E oggi non ti ascolto bene, l'altro giorno ti sentivo benissimo invece. Non mi ascolti bene? Sempre difficoltà a ricezione, boh. C'hai anche l'FM? Come? Il segnale, a me mi manca il segnale, ho sempre segnali bassi, boh. No, volevo provare in FM se ce l'hai, a vedere come se va meglio, se ho meno QRM. Mi senti? Nulla, non ti sento. Mi senti, Natalino? Ehi, ti sento, sì. La radio la puoi aumentare qualcosa? Guarda, così meglio va. Così va meglio. C'ho meno QRM qua, se alzi un po' la radio ti ascolto benissimo. L'ho tutta alzata la radio. Anche il segnale mi sembra migliore qua. Certo. Sto usando più di 40 gradi. Troppi disturbi, devono essere le pompe di calore che disturbano. Anche io sono disturbi, lo fa adesso con questi antennini così, adesso già la metto sul tetto l'antenna. Sarebbe il massimo, anche da parte mia, non è solo colpa tua, è anche colpa mia. Se quell'antennino lì non posso proteggere, ragazzi. Strano, se siamo così vicini, boh. Ma io sono dentro un vicolo, non sono libero, ragazzi. Se linea d'aria, quanto ho capito, siamo neanche un chilometro. Lo so, ma l'antenna è bassa e chiusa. Io volevo smontarla, dargli una pulita, perché secondo me è ossidato il radiale di massa, deve essere ossidato. Anche la mia non è tanto per la quale, è l'antenna che avevo in macchina, è solo un sacco di anni. Ho visto che è partita anche l'involucro che c'è in plastica, si è screpolato col sole, sicuramente lì sarà entrata acqua e avrà fatto danno. Ascolta, le misure degli ispezioni, te le ricordi a memoria? Per andare dal rosmetro, non so, al baracchino? Io ho 45 e ho 60 centimetri, li devi fare. Perché se le ho fatte a 45 le ho fatte? Io mi ricordavo sempre multipli di 45 oppure 90, boh. Oppure 90, perché erano una misura strana sui 70, boh, siccome ho letto che di fare 45 ho provato se abbassavo un po' di stazionaria, ma ci sono sempre, deve essere l'antenna proprio. Non viene a scenderla e finirla a vedere un po'. Vuole smontata, pulita e tarata nuovamente l'antenna con lo stilo. Tutto l'insieme era troppi anni ferma, troppi anni. Anche il cavo stai cambiando tutto? Sì, ho preso il 113 di quello buono, quello militare. Ma quello robusto, quello grosso? Sì, allora. Più RAM c'è, meglio è. Sì, infatti, sì, allora. Serve di meno. Dà un po' fastidio a fare le curve, però un'altra bomba. Io mi ricordo quando c'eravo giù in campagna, c'avevo anche gli spezzoni all'interno con l'RG8, allora si usava l'RG8. Infatti non ho preso la Camilla perché è troppo lunga. Sì, oppure usavamo, mi ricordo, un cavo che avevano dismesso, mi sembra i carabinieri o la finanza, cos'era? Lo buttavano, no? E noi lo recuperavamo, era cavo buono. Perché la migrazione del vano mi sembra che sia di 5 anni. Era per la resistenza del vano. E loro ogni tanto cambiano per avere sempre il massimo, là. Loro devono essere sempre per tutti, capito? nel capo di rotta. E Claudio, l'hai sentito oggi? No, negativo, non l'ho sentito, dovrebbe entrare a momenti. Non so se lavora, se la finisce, non mi ricordo. Ah, no, dovrebbe essere già a casa sua, salvo imprevisti, sono già alle 5:30. Non ricordo gli orari, Oggi cos'è, venerdì? Sì, oggi è venerdì, sì. Sarà preso un po' di più magari, ma sarà già a casa sua adesso. Tra un po' entra. Adesso mi sistema un po' di roba qua, che come ho fatto le saldature devo ritirare un po' di... distrazione che mi sono avanzati, dai, rimango in cuore X. Sì, vediamo un aereo, perché sono in Castraglio. Ok. Hola, hola, c'è qualcuno qua? Va bene, Natalie, novità, niente? Niente, niente ancora. Ma tu propagazione ne senti questi giorni? No, ma la posso sentire, sono chiuso in un vicolo io all'ora. Ah, a volte, perché sento molto rumori di fondo, pensavo che fosse propagazione, magari di segnali tutti accavallati, invece no. Il rumore lo sento anch'io, ma non è propagazione. Invece stamattina col portatile sentivo dei radioamatori, sentivo, però su altre frequenze, dai. Ho capito. Ma come mai arrivano così bene? Da tutta l'Italia li sento, No, non lo usano i ripetitori, E infatti sento un rumore come aggancia, no? Il rumore tipico del ripetitore, così è. Io. No, ma allora noi ci sentirebbero, no? Non credo. Se tu non ci senti, sì. Solo che devi mettere il gruppo e devi mettere lo shift più avanti per quel ponte, capito? Io non lo so dove state ascoltando qui. Ma ho segnata la frequenza, ma non ce l'ho qua, ce l'avevo in macchina, stamattina ero a lavoro senza far nulla, quindi l'ho acceso, dai. Ho fatto una spatolata e ho trovato questi. Parlava di canale internazionale, mi sembra di dire, canale nazionale. Forse era l'internazionale quello, mi sentivo già di cercarlo, hai capito? Dovresti leggere. L'ho segnata in macchina, ce l'ho su un post-it in macchina, su un pezzo di carta. Se mi aspetti vado a prenderla. Dai, 5 minuti. Andata lì. Quindi non c'è bisogno perché ce l'ho in memoria nel portatile. Allora, 431 237.5. Mica stanno trasmettendo, mi c'è uno che chiama Cosimo. Quello è l'internazionale, non pigiate. Cos'è? L'internazionale, state attenti, l'internazionale. Ma io solo ascolto, io. Puoi almeno ascoltare, sì. Sì, ascoltare sì, ma non pigiate. Ciao, buonasera. Mi sto arrivando adesso, battevi 5 minuti e sono morto. No, ciao, ho sentito qualcosa di nazionale, canale nazionale, la frequenza è quella, si è fermato da solo stamattina, l'hanno fatto lo scanner. Sì, è l'internazionale, è linkato, c'è il ponte da Milano a Monteleone, per quello lo senti. Lo sento anche a casa, figurati, stamattina ero all'aperto, zona Candiga, lì. Invece adesso arrivo anche dentro casa. Sì, arriva tu per parte, arriva, sì, c'è quello, 431.237.5. Sì, adesso hai citato il ponte. Te lo sto citando io. Ecco, lo sapevo io, lo sentivo la portante. Io odio, non c'entro mai, non mi piace, non è una cosa che mi attira, però a volte ascolto. Anche io mi ha fatto un po' di ascolto, qualcosa di interessante lo dicono sempre, o di apparati, di antenne, di qualche cosa lo dicono sempre. Avanti Natali. L'ho messo. Le senti, poco fa c'era uno che chiamava, adesso mi sa che non c'è più nessuno. Sì, quando parlavo già di te. poi sentivo anche gente che lavorava al porto, non so se era qualche frequenza della, della marina, boh. Ne stanno fischiando, non so se sia sempre lui, Claudio, boh. Eh beh, ciao. Allora sei andata lì. Senti anche questa frequenza, amico, che si sente gente parlare. 162-487. Aspetta, me la... la Dino, ti posso rispondere io? No, no, solo ascolto. Penso che sia roba della... perché parlavano che stavano scaricando qualche nave a Porto Torres. Sicuramente. Deve essere marina, capito? Marina. No, lì non ti posso rispondere io. Ma là, sì, non c'è problema. Guardatevi 5 minuti fa, ciao Natalia, che mi do una sistemata e sono a pezzi, c'è un mal di schiena, tutto il giorno che sto correndo a destra a sinistra. Comunque aperta più l'antenna Natalia che farò rientro oggi. Io faccio quel dolore anch'io, mamma mia. Vabbè, va a fare quello che devi fare, dammi quella frequenza, 162. 487. Deve essere marino. E poi c'è quello del bollettino meteorologico del mare, dai, quello lo senti, sì. Io sento tutto, mi servo una figa, perché ci vuole il Vittorino a portarsi, così almeno mi ascolto tutto. Quella mi sembra che sia 156-425, mi sembra, prova a vedere se, se si sente il bollettino. E io adesso non ce l'ho, ma la posso portare, non mi viene male. Chiamalo un po' sentito, no? Il vice di Torino, così almeno vi ascolto. Anche quello può servire a volte, le condizioni meteo, no? Se sta arrivando qualcosa, qualche perturbazione. Quello dov'è? Non me lo ricordo quello, boh. Prendi carta e penna. No, ma mi sembra che ce l'ho già memorizzato nel, come canale quello lì. Mi sembra, non vuoi sbagliare. Però la frequenza non me la ricordo adesso. 433-500 e l'altra è 145-525. Aspetta che prendo un pezzo di carta, dai la penna. Allora, 433-500. E se molte volte parlano in duplo, parlano, capito, parlano in duplo, una parla a 145 e l'altra a 433. Com'è l'altra frequenza? 145-525. 145-525, così. Sì, signore. Capito, molte volte parlano in duplo, no, una parla a 145 e l'altra a 433-500. Quindi cosa fai? Metti la doppia frequenza, metti sul portatile. E così vi ascolti tutti e due. E ho capito, va. È un giocattolino che ti diverti, dai, a fare almeno un po' di ascolto, se non sai cosa fare. Io sono sempre più buono da tantissimo tempo, però non stavo più pensando, non so se ti faccio più rispetto. Sono una canzone paurosa, però non lo dico più. Io vabbè, stazioni paurose non ne ho mai avuto, però non so, prima in campagna certe cose si potevano fare, ma qua in città è un casino con le antenne, qua la gente si lamenta subito anche se non ha ragione. Sì, anch'io stavo in campagna, per quello che potevo mettere quello che volevo, c'era un dipolo in città, andava ascoltato su. Sì, anche il dipolo ti toglie sono molte soddisfazioni. Quello che avevo io, guarda, tutte le frequenze praticamente per la musicata, se voglio far valere tutto per me. E quindi ho soltanto tutto. Ho soltanto sia un mato che un altro. E come facevi a accordarlo a tutte le frequenze? Cosa ci hai messo? Allora, una cosa di musicata, una cosa che sì, una cosa per l'americano, era tutto. Accordava tutto, anche un cacciavite. simulatore, se no guai. Questo è della MSG, non si parla spesso. Cioè, come fare il preaccordo prima, no? Eh no, questo è un semplice ZG, dai. Ma che sigla è, boh? È un TM1000. Di quelli vecchi, io c'avevo la KP1000. Tutti i rimasugli di 30 anni fa o 40 anni fa, so. Forse stava entrando un portante. Non ne ho voglia, dai. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, ciao, che sì. Avete parlato in due. Buonasera a tutti, Marco. Ciao Marco, dove moduli? Sassari, zona Viale Trento. Ma chi sei, Valerio? No. No, io sono Franco in compagnia di Natalino. Mi sembravi Valerio dalla voce, solo che il segnale era ancora più forte. Ciao, ben sentito. Natalino, ciao. E Claudio non c'è oggi, no? Sì, c'è. Ma che da fronte, perché appena rientrato, è arrivato il tutto lì. Me l'avevi detto. E per piacciarla cosa avete deciso? Per quando? Dopo Pasqua, credo. C'è ancora col galere, verso martedì, penso. Perché lunedì è Pasquetta e ci facciamo gli affari nostri. Eia! Avanti, Franco. No, adesso c'è lo smitter che controllava le stazionali. Invece adesso ho sbloccato. C'hai un bel segnale comunque, anche tu. Eia! Sto usando in questo momento 8 watt, credo 8, non di più, forse ha modulato qualcosa di più, non ne ho idea, dai. L'apparato è un Superstar 7009, o meglio un CRT SS 7009, nuova generazione, credo che sia l'ultimo uscito. No, il mio è un Super Galaxy, è dato per 20 watt, ma non penso che ce li abbia, penso sui, forse in banda laterale sì. Un 10-12 in AM, Super Galaxy di 30 o 40 anni fa. Guarda, la modulazione è perfetta, bella, limpida, veramente bella come modulazione, veramente chiara. Super Galaxy, io l'avevo sentito questo Super Galaxy, però non ce l'ho presente adesso. C'ha molti tastini sotto, tutto pulsanti, cursori, frequenzimetro è più o meno al centro, a sinistra c'è lo smitter e a destra c'è i canali digitali, dai. Deia. No, dovrei guardarlo su internet perché non mi viene proprio, non me lo ricordo. Ricordo questo nome però. Ok, riprendi Natalino, dai, quindi ancora non ti è passato questo dolore della schiena. Stavo rientrando alle 5:30 da Ocean, ho visto la tua 50 portando il cane fuori. Sì, spazzaccia buona, c'ha dei bei bassi, diciamo, dai. Ecco, questo riceve diverso dal 3009 riceve acuto, questo ha una ricezione più corposa, ok. Lo so, lui piacciono molto corpose come modulazione, molto con toni bassi, mi. Ok. Vabbè, io preferisco l'alto, magari l'Omega Force, ma è buona anche questa, dai. Stavate parlando di scanner di frequenze radioamatoriali. Ebbene, Attali, ma tu eri riuscito a fare almeno la scansione dei canali là, o no? Eppure il manuale in italiano è, ti dice, per fare la scansione premi questo, questo e questo. Devi premere il tasto S, il tasto F, il tasto laterale, e poi premere DMS, mi pare. Adesso non ce l'ho presente qua. Vabbè, poi già ne parliamo, dai. Ma qual è il ponte Cesar? Guarda che c'è già, 431-2375, c'è già. Io che ricordi l'ho già messa in memoria. Sì, sì, tanto lì devi imparare solo a fare tre cose: a fare l'attenzione, a memorizzare i canali e a cancellare i canali eventualmente. È l'unico tasto che fa memory cancel, memory write, che vuol dire scrivi, capito? Guarda, è più semplice quanto immagini. Magari per la banda laterale è un po' più ostico, ma niente di che, io lo sapevo fare, non dico tutto, ma quasi tutto con quello lì. Tanto il manuale bene o male si capisce, dai. Certo, come lo vedi così ti assusti, perché vedi un sacco di scritte, un sacco di tasti, ma è più semplice quando lo memorizzi a mente. Vai Franco. Le cose poi quando le fai di rado ti dimentichi. Io questo portatilino all'inizio ero un po' in crisi, invece ormai lo faccio occhi chiusi, dai, più o meno, almeno le più importanti, dai. Ehi, aspettate che sento un odore un po' strano. Ah, forse è acceso il camino, quello di sotto, ok? Quello di davanti. Ok. Sì, quello che arriva meglio. Poi sai cos'è, Nathalie? Purtroppo i radioamatori ogni tanto vanno in digitale e quindi tu in chiaro non li senti. Si stanno andando al digitale. Ma sia che sia venuto questo digitale, stavo così bene con l'analogico, almeno per quanto mi riguarda, anche la televisione, e poi me ne fischio di avere 200 canali, tutti di fesserie, preferivo avere i canali Rai, i canali Mediaset, qualche canale locale e basta. Tanto più che molti canali digitali sono tutti televendite, roba inutile, dai. Ma tu stai dicendo uno scanner per sentire gli amatori? Digitale pare costi 1000, non so se 1500 euro, 1600 euro, ma poi senti le solite bagianate, non è che senti chissà che cosa, senti le stesse cose che dicono in chiaro, niente di che, dai. Allora è meglio dedicarsi alla ricezione delle HF. Basta avere una bella antenna veicolare, anche a base magnetica, tarabile come la Proxel Pro X1, quella che ho io, e devi vedere come riceve. Io ho avuto anche il ricevitore per le HF, come si chiama, il Texun PL660, quello riceveva molto molto bene le bande HF, capito? Poi vabbè, mi sono stufato e l'ho venduto. Però era un ottimo ricevitore, tanto più che se li metti l'antenna tarata proprio per la frequenza che ti interessa, tipo 20 metri, 40 metri, riceve molto molto bene. Poi non te ne dico niente, mi Nathalie, con l'antenna HF in macchina con l'857 riceve un bijou. E vabbè, ma anch'io se ho necessità di soldi lo vendo, se ho necessità sì. Eppure adesso sono arrivate le rate dei lavori condominiali, degli ultimi lavori condominiali fatti, a botte di 200 euro l'una, e aspetta qua che dovranno fare un bel di lavori, dovranno mettere a norma tutto il palazzo, vedrai i migliaia di euro che escono. Ehi, riprendi Franco, che ricevitore è quello? Che portatile è? No, è un Polmar DB10. DB10, VEU, VHF, VHF, guarda, forse io ho avuto il corrispondente cinese, forse, perché mi pare di ricordare che il Polman è uguale a quello che ho avuto io, poi l'avevo venduto dopo tanto, sì, dicevo, poi una cosa devo dirvi, rispetto agli scanner, questi portatili, che siano Polman, che siano Baofeng, sono molto ma molto più sensibili dello scanner, molto di più, che ne so, lo scanner c'ha 0,25 microvolt, 0,220 microvolt, diciamo, magari il portatile ne ha 0,16, 0,15, insomma sono molto sensibili, quello che non senti con lo scanner magari riesci a sentirlo col portatile, quindi è molto molto valido per la ricezione. E anch'io ce l'ho, è sempre in armadio, carico la batteria, poi lo schiaffo nell'armadio e rimane lì per secoli. No, io l'ho preso, quindi stamattina avevo dei buchi al lavoro, quindi sono stato senza fare niente, allora ho acceso e ho trovato così, canalizzando un po' di frequenze, ho trovato queste frequenze usate, così utilizzate dai radioamatori, qualcosa del posto, mi sembra di portatore, sentivo. 6, avete parlato in due, vi devo forse rilanciare nello specifico. Sì, Nathalie, li conosco i tuoi, sono molto belli, molto belli. Cosa ti volevo dire? Per ricevere meglio ti ci vorrebbe un antenino esterno, non discone, perché la discone è troppo larga di frequenza, cioè ti butta dentro tutte le frequenze FM delle radio FM, un macello. Ci vuole un'antenna bibanda, è più stretta, è più selettiva, tipo un X30, no, una cosa del genere, molto più selettiva, ti tira dentro molta meno roba, capito, delle radio FM eccetera. Deia, sì, macchina sì, io poi per la macchina non le conto più le antenne per ricevere VEU. C'avevo la, allora, di fammi pensare, di antenne base magnetica con la base da 8 cm ne ho due. Due con la base da 3 cm, quelle proprio finissime. Poi ho la Diamond NR770H, tutta acciaio inox. La SG7009, quella da 1,58 m. La CR8009 come antenna. E poi vabbè, per le HF ho quella che ti ho detto, la Proxer Prox1, insomma di antenne veicolari sono bello fornito, però per la casa no, devo ascoltare le HF con l'antenna del baracchino, non è il massimo. Ma chissà perché, Natalia, a me piace la CP6, sarà un carico fittizio quello che vuoi, però almeno risuona su ogni banda, proprio la pitarare centrobanda in 80 metri, 40, 20, 15, 10 e 6 metri anche. E uno, vabbè, come niente, è entrato, ha fatto Israele, il primo giorno che l'ha messa ha fatto Israele un radioamatore, ha detto anche il nominativo, quindi non è così, quando c'è propagazione certo non rende, anziché arrivare 9 più 60 arriverai Santiago 9, ma funzionare funziona lo stesso. Cioè molti, anche con le verticali o con le direttive, se non arrivano 9,60 non sono contenti in HF, ma in HF puoi arrivare anche 9, 7, 5, basta che sia capibile la tua missione. Poi vabbè, ci sono i fanatici che se non arrivi in fondo scala non ti danno nemmeno conto, lo sai. Alcuni radioamatori in HF sono così, se non arrivi in fondo scala ti dicono sei basso, arrivi basso, non arrivi, capito? Sono un po' sprufoncelli alcuni. Riprendi, Franco. Sì, sì. Io mi ricordo tanti anni fa avevo un trasverter che ti faceva scivolare la frequenza dal baracchino, forse sui 45 metri se non sbaglio. Avevo fatto un bipolo a voi invertita, ma si sentiva tutta Italia con segnali allucinanti, mi ricordo. E non riesco più a trovarlo quel trasverter, boh. Allora, io l'LB1 Livorno pari 1 della Electronic System, così, 40-45 metri, però non trasmette, riceve solo, non trasmette, lo devo dare a un CB in modo che possa ricevere col baracchino, con l'antenna della 27, riceve, ho provato già, certo riceve attenuato, però riceve. E poi c'era lo stesso modello però tribanda o bibanda, faceva 40-45 metri, 20-23 metri e mi pare 80-88 metri, mi faceva Electronic System di Bologna, mi pare. Ah, non ricordo la marca, comunque io trasmettevo anche, era anche trasmettitore, mi ricordo che era solo monobanda, solo 45 metri però, aveva una qualità radio e una ricezione bestiale proprio, con due pezzi di filo, guarda, sentivi tutta Italia. Sì, è vero, sì, ma il mio in teoria doveva trasmettere, ma è rotta la trasmissione, non funziona in trasmissione, doveva funzionare ma mi è arrivato così. E visto che nessuno ha voglia di aggiustarlo, detto tra noi, lo si usa solo per la ricezione, lo devo dare a Antonello quando lo sento, Antonello Di Ossi, purtroppo non l'ho più sentito, vabbè, lui ha già un ricevitore più serio, però gli avevo detto che nel caso l'avessi trovato negli stanzini gliel'avrei dato, infatti l'ho ritrovato, ero convinto di averlo buttato e l'ho ritrovato. E quelli sono carini per andare nella banda pirata, solo che ci sono troppe orecchie all'ascolto, gente che va a riferire a cui non frega niente, perché non è banda amatoriale quella, però va a riferire agli organi preposti, capito? I radiatori non hanno capito una cosetta, che devono pensare esclusivamente alle loro bande, non devono stare a pensare a quello che fanno gli altri su bande pirate o bande vuote, ecco. Vai Franco. Sì, sì, mi ricordo che era una banda pirata all'epoca, non so neanche se oggi sia frequentata, perché a quanto pare tipo la 27 è stata abbandonata un po' da tutti, dai. E qualcosina c'è, sono utenti anziani più che altro, passano il tempo così. All'epoca c'erano anche baracchini con la scheda già pronte, io mi ricordo dal catalogo da un giornale ciclo elettronica, trovavi nelle pagine le pubblicità Super Pantera 11, 40, 45 metri, certi erano addirittura 80 e 88 metri, avevano tutte e due le schede, erano già belli e pronti, muovevi un selettore ed eri in 45 metri o in 88 metri, diciamo, sempre avendo le antenne adatte, se no non si fa nulla. C'è stata l'epoca del boom di quella banda pirata, adesso c'erano i trasverteri, c'erano i baracchini pronti, adesso non ne vale la pena. Adesso mi trovi un Kenwood da 300 euro, 140 e usi quello, se proprio uno lo vuol fare. E infatti, hai ragione tu. Oh, io ho spolverato un po' di roba vecchia, ma quel trasverter mi è rimasto un po' in gola. È strano non trovarlo, non capisco il perché non lo trovo. Avanti Natali. Sì, che fa Natali, dai, bisogna camuffare la voce un po', usare altri nomi. Buonasera, buonasera. Non lo so, non riesco a camuffare la voce io, se non l'avrei anche fatto. Tanto per sperimentare Natali, non è proprio per... Basta andare sulle frequenze solite che usano loro, tipo 6.585. Le trasmissioni poi vere, utili, di servizi importanti le fanno un po' più in là, un po' più su, un po' più sotto, là, lì sanno che ci sono i piratoni. La frequenza di chiamata era di solito 6.585. Non so se ti ricordi Natali, poi andavano anche 6.590, 6.570, 575, tutto lì intorno... Gravitava intorno a quei 20 kHz di banda sopra e sotto, dai. Lo so, vabbè, giustamente sono bande dove non si dovrebbe andare, ma anche il PNR no. Abbiamo fatto un po' di sperimentazione con Antonello, ma poi basta, ce ne siamo andati dal PNR. Tanto il gusto di provare dove arrivi, fin dove arrivi, con antenna in più, con qualche watt in più, ma poi non è... Arriva lo sperimentale, no, non è così morbosa la cosa, poi non parliamo più là, almeno io non parlo più là, poi sono in sorte una rumore insomma tra utenti, fazioni diverse, quindi adesso siamo due canali differenti anziché un canale unico. Vai Franco. Sì, in questi anni non è cambiato niente praticamente, le fazioni ci sono sempre state e continueranno ad esserci, così è Marco. Sì. Ogni adibine è una, detto in sassarese, ogni tanto batti becco, poi ti trovi tra due fuochi perché magari senti a parlare con una persona, l'altra ti dice non entrare lì perché, cioè, è difficile da spiegare, dai, lasciamo stare. Franco, ma tu da dove moduli? Sei 8, no, 9 di segnale. Più o meno 9, dai. E anche tu sei quasi 9 qua. Però ti porti appresso, devo dire, il rumore di qualche pompa di calore che c'ho attaccata all'antenna, perché mi ammazza, mi distrugge, specialmente Natalino, guarda, a volte non lo capisco. Io sono su qui su Monte Basso proprio, A Monte Rosello Basso, ok. Ma tu entravi 30 anni fa, 20 anni fa, entravi? Perché io ero entrato nell'estate dell'84, poi a metà degli anni 90 ho abbandonato tutto, proprio abbandonato, e ho ripreso nel 2010 e dintorni, 2011 dai, dopo una quindicina d'anni di assenza. E ho notato veramente un vuoto, un abisso rispetto a 20 anni fa e più. Io sì, c'ero, non parlavo tantissimo, non modulavo tantissimo, però c'ero, dai. Poi ho smesso negli anni 90, forse 93, come sono andato via, diciamo, dalla casa dei genitori, e qui a Sassari invece ho messo qualche volta un antennino e basta, dai, giusto per vedere che c'era ancora in frequenza. Allora ti ricorderai Ippolito Falcone, sì. Ci stavo pensando poco fa, stavi dicendo di Casini e Buriane. Mi ricordo. Beh, guarda, Ippolito ha fatto la storia della 27. Certo l'hanno fatto crepare, che viene male anche a dirlo. Pensa che hanno fatto anche un sito dove ci sono le registrazioni sue di quando fa, di quando urla incavolato, oppure di quando fa quel gioco ai ragazzi, il gioco della calzetta, che dai bacini, quelle cose là, insomma. Hanno fatto persino un sito. Insomma, Ippolito è stato istituzionalizzato, dai. Poi purtroppo da quando la madre è mancata, è andato a abitare a Sorso, la sorella non gli fa mettere più niente, anche se ormai non c'è più la maleducazione di allora, cioè se Ippolito entrasse ora sarebbe tranquillo, nessuno gli darebbe più fastidio, capito? È cambiato un po' tutto, ci conosciamo, non dico tutti, ma quasi tutti. Nonostante ciò, qualche battibecco ogni tanto c'è, che ci vuoi fare? Divergenze di opinioni si chiamano, così le chiamo io almeno. Sì, ma mi ricordo, lo facevano incazzare poverino, è come che se lo senta oggi, beh. Ogni tanto lo vedo, cammina a piedi, non so se abita in quella zona lì, va verso Sassari, sì, sotto il cavalca ferrovia che c'è Santa Maria, dai. Ah, lo vedi tuttora? E beh, è probabile che ogni tanto vada a controllare la casa dove abitava la madre e il padre, a meno che addirittura non sia tornato parzialmente a abitare lì, Non abbiamo notizie nuove, non abbiamo notizie. Qualcuno ha detto che se rientra in quella zona gli piazziamo l'antenna del baracchino, gli vogliono regalare un baracchino e l'antenna, almeno, perché ormai, sai, prima aveva 30 anni, era un po', adesso ne ha, mi pare, guarda, ne aveva 30 nell'84, ne aveva compiuti, quindi adesso sono passati parecchi anni, aspetta, non vorrei far conti, ma credo che ne abbia una sessantina, c'è capelli bianchi, è un po' ingrassatello, diciamo, no? E l'ho visto anche un po' storditello, almeno, un po' con lo sguardo fisso. Darcia, non lo so come si sente, però sai, questo ragazzo purtroppo è malato, non sa come passare il tempo, invece così potrebbe entrare a parlare con noi e stare tranquillo, tanto ormai i tempi del gioco della calzetta sono lontani. Cappa, sì. Mi ricordo, usciva anche bene, aveva una bella antenna, mi pare che avesse una Mantova 1 e si difendeva col segnale. Sì, sì, allora ho sentito una discussione di camionisti e hanno detto che ovunque andavano lo sentivano, era in una posizione particolare, no? Non troppo in alto, era basso ma un po' aperto, no? Per cui i camionisti, anche se si allontanavano di 20-30 km, anche 40, riuscivano in certi punti a beccarlo ancora, quindi era una buona posizione, poi l'antenna era ottima, una Mantova. Sì. Troppo la sorella non gli fa mettere più niente, ma deve capire anche la sorella, i tempi sono cambiati, ormai non ci sono più quelli di una volta che lo facevano proprio schiattare, lo diceva lui. Riprendi Natalino. Ah, Piero Drago, lo vedi ancora? Ah, Natalino, mi sta venendo un dubbio però. Controlla se sei prima alle 9.25, 9.30, adesso sei Santiago 9, hai toccato qualcosa? Ah, ecco, quindi, ma prima eri un attimo, cioè il presidente, quando lo hai messo? Dai che vi saluto, dai. Ciao Giulio, sto pensando che dipenda da me la cosa, perché anche Giulio arriva a basso, c'è qualcosa che non va qua nell'antenna, sento anche scaldare l'apparato. E io sì, lo sento da guarda. 9.15, 9.20, però prima era molto più alto anche. Tu lo sai, la potenza. Allora c'è qualcosa nel caso, tu, guarda un po'. Ciao Natalie, va bene, io sto uscendo qua tre volte appena, Marco, dunque no, non fare caso al mio segnale perché sto uscendo basso io come potenza. Ciao Franco, ben ascoltato, dopo anni e anni comunque, tu non ti ricorderai di me sicuramente. Avanti Franco, Giulio da questa parte. Forse Franco non si sente perché a mantenere nelle condizioni che sono io, mio giù. Buonasera comunque. Ok, vabbè dai. Sto uscendo bassissimo, con no, tre watt, le mette, appena. Ecco qua, appena così. Franco, mi senti? Adesso ho sentito qualcosa. Sei Giulio? Sì, ok, dai. Vediamo un po', ancora ti do un pochino di vitamina appena. Ecco, 4 watt, va bene così, mi ascolti bene? Adesso stai aumentando un po' di modulazione e anche un po' il segnale. Sì, vabbè, io potrei aumentare anche a 150 watt, per cui sto uscendo con 4 watt in questo momento. Interessante che tu mi ascolti, non mi interessa il segnale alto, interessante che tu riesca a percepire bene le parole che dico. No, dopo una passata di influenza appunto sono voluto entrare per salutarvi, però non è che mi trattengo a lungo perché non voglio ancora ascoltare troppo la gola, perché il discorso mio era proprio sulla gola. Ok, a dopo casomai, avanti Marco, io vi ascolto, dai, tra 5 minuti rientro per salutare ancora, faccio questi intervalli proprio per non affaticare troppo la gola, vai Marco. Sì, allora sto controllando le stazionarie, non riesco nemmeno a vedere lo strumento. Ah, sono 10 watt questi, sono 10 anche 11 watt, non me ne ero accorto. 1.1 è qua, 1.1. Scusate, controllo sul 40, arrivo subito. Ciao Giulio, ben entrato comunque, sì, non sforzare la gola, dai. Quando potrai... ma tu Franco lo conosci? Perché io non so quale Franco sia, c'erano tanti all'epoca. Vabbè, un vecchissimo amico, zona Monterosello, dall'altra parte dove è Natalino. Ok, dai, se prendi tu fra, dai, con l'occhiata voi due, tu e Natalino al momento, prima di arrivare Marco, perché io ripeto, ho voluto salutare, ma non voglio forzare troppo la gola, casomai tra un po' rientro di nuovo, due parole, poi chiudo, rimango di nuovo all'ascolto. Ti prendi Franco? Ok, dai, riguardati un po', prendi un po' di un cucchiaino di miele, un po' di limone magari che fa bene, caldo, vedrai che ti passa, dai, buona guarigione comunque, siamo qua. Avanti Natali. Stazionale a posto, non ho nulla l'antenna, dai, era solo una mia impressione. Settimana di mezzo comunque, dai, riprendi, dai, non rientro subito, fra un po' dopo casomai, avanti riprendi la tazza. Eia, sì, ripeto, 1.1. Questi sono 10 watt o poco più, fra i 10 dai, credevo fossero 8 watt, e no, l'apparecchio sta scaldando giusto perché gli ho messo 10 watt, cosa volevo dire? Niente di che, dai, no, perché io appena sono entrato ti avevo sentito ieri 9.25, quasi 9.30, infatti ho detto come mai Natalino adesso è 9, c'è una differenza notevole, e forse è perché stai usando l'altro baracchino, ecco. Ah, ecco, va bene, dai, risolto il dilemma. Mi stavo già preoccupandomi, non c'è qualcuno stia spillando il cavo o sfasciando i radiali, mio, o roba del genere. Tutto è possibile. Quello sempre tu, quello militare, è Marco. Eia, eh beh, sì, ma sono tutti 1000, credo. Ormai non lo trovi più normale, non 1000. Almeno credo, non lo so. Non so nemmeno come sia il mio, non me li ricordo. Comunque già è vero, io ho fatto già il PL. Eia, adesso lascio un po' il rosmetro, poi, anzi no, lo stacco subito, dai. Riprendete voi che stacco il rosmetro, wattmetro. Oh, via. Io non so come fare per eliminare queste scariche di queste pompe di calore, boh. Devo mettere per forza una massa a terra, boh, qualcosa devo fare, se no non sento nessuno, cavolo. Ma era modificata perché c'era spezzata, quindi mi sembra che c'è inserito uno stilo d'acciaio di un'antenna di macchina, capito? Sicuramente non è tarata bene. Ce l'ho a fianco alla finestra dove c'è il ferro per stendere, capito? Per non salire sul tetto, sai com'è, no? Poi questa ricorda, vedi, salite sul tetto, sta entrando acqua. Alla faccia di quello che non ti fa passare. Ti fai passare il palo davanti alla finestra proprio. Ehi, se riesci, beh, già va bene, l'importante è che riesci a passare il piano del tetto, dai. Anche tiranti devi mettere, no? Ah, ce l'ho bisogno della casa a un'altra fatta di quelle di frattenze. E lasciamo di più. Vedi tu, te l'avrei studiata bene, credo, va? Qua mi accontento di questa per adesso, poi un domani se dovessi salire sul tetto per la TV magari ne approfitto e butto giù un cavo e metto una gran plenia almeno là. Oh Natalì, ma il materiale ce l'hai tutto? Oppure Claudio, ce l'ha tutto il materiale? Ma dico, tasselli, tutto avete, guarda che avevo controllato se avevo il nastro vulcanizzante, no, poi ho scoperto l'inghippo, io quando ho piazzato la Ringo, la prima antenna, avevo comprato due rocchetti di nastro, no? Con una parte di un rocchetto abbiamo isolato la Ringo. Poi quando l'ho cambiata perché faceva schifo, ho usato quella parte rimanente più il nuovo rocchetto, ecco perché non me lo sono trovato. E l'abbiamo usato tutto praticamente il vulcanizzante. Bisogna isolarla quell'antenna in modo eccellente. Tutti gli elementi più il pezzo che c'è tra lo stilo in alluminio e la bobina, quella plastica trasparente, lì bisogna fare una bella nastrata in modo che non entri assolutamente acqua. Che palle ste feste però, domenica Pasqua, lunedì Pasquetta, tutto chiuso, a me le feste non è che me ne freghi più di tanto, sono come giorni qualunque, poi non, le feste religiose non le seguo tanto, dai, è tutta una cosa di maniaccioneria, tutti a mangiare agnello, a parte Berlusconi che è diventato vegetariano, è tutto lì, a mangiare, a trafugarsi e a trincare anche. Vedrai la gente sprozza che c'è a rientro di Pasqua, Natali B. Sì. Ah, Natali, ti volevo dire una cosa. Quando da Viale San Francesco sono arrivato in Corso Trinità, c'era tutto il primo pezzo di quella tua via tutto libero dalle macchine, perché c'è un divieto di sosta di fermata, tutto libero, c'erano vigili urbani che piantonavano, e in più di fronte al mercato non hanno fatto sostare neanche una macchina, tutto libero di fronte al mercato e tutto libero nel primo tratto di Corso Trinità, e stavano lì piantonati a non far fermare le macchine. Si vede che non hanno nient'altro da fare, però caspita, appena si fermava una macchina la facevano andare via. No, se tu non te ne sei accorto perché eri dentro casa. Ma perché ci sono le prescrizioni, Marco, è per quel motivo lì. Ah, per quello è. Ma scusa Natali, la precessione passa lo stesso in strada senza bisogno, cioè anche se ci sono le macchine in sosta sulla destra non gli cambia nulla la precessione. Lo so che passa in mezzo strada, ma siccome c'è tanta gente penso vogliono sgombrare tutto il pezzo, e guarda, fermarsi proprio in quella chiesa, capito? La mattina c'era la processione, pensava di uscire da quella chiesa. Ecco perché non vogliono parcheggiare. Ah, per quello è. Ho capito, dai. Ho capito la processione. Comunque è vero è che c'è. Venendo da Viale San Francesco lì, no? Appena giri, svolti lì per. C'è il divieto di sosta di fermata, ma c'è sempre o l'hanno messo solo in questa occasione? L'hanno messo in questa occasione, evidentemente. Perché io le macchine lì le ho sempre viste parcheggiate in quel tratto lungo e mi sembrava strano oggi, ho detto come mai tutto libero. Ok, dai, va bene, niente di preoccupante. Ma oggi Claudio, cos'è? È tornato schiattato da lavoro. Claudio, ci sei? Meglio crepato la poverata, mal di schiena, giuria. Ehi. E caspita, come mai gli hanno dato un turno talmente lungo? Cioè, dalla mattina presto fino a tutto il pomeriggio, com'è possibile? Io entro a due volte la settimana, sai, io entro Claudio, anche io ce l'avevo quando ero l'altro parte. Uscivo alle 5 di sera, 5 e mezzo, lo sa. Ah, ecco, ho capito com'è la questione, dai. Due volte alla settimana allora gli fanno fare l'orario lungo, dai. O come si chiama rientro, e sarà cribbato, sarà, non se la sentirà di entrare. Riprendi Franco, dai. Allora, beh, ci deve assumere qualcuno in più, ti fanno fare orari massacranti per risparmiare loro magari, come azienda. Quello poco ma sicuro, eh. E allora, anch'io stamattina avevo fatto un turno, sono entrato presto, però ho finito all'1:30, ero già in partenza, da. Sono entrato alle 5:30. Avanti Natali. Io l'ho detto, sempre precario, già. Non lasciato operaio, cioè la partenza superiore, sicuro. E cosa devi fare? Boh, è un periodaccio, eh. Anche mio figlio, sì, ogni tanto lavora, però niente di sicuro, boh. Come fa uno a costruirsi una vita, a prendersi una casa? Sta diventando critica. Natali, sai cosa dobbiamo fare noi? Ci mettiamo una parrucca bionda, ci trucchiamo, ci mettiamo le calze a rette, poi andiamo a Preda Nieda e qualcuno già lo trovi che si ferma. E io perché? Con questa tromba di naso che c'ho? Vabbè, più giovane solo. Oh, yeah. E poi mi dice tutto il cellulare, quindi svolgono, sì. A che immagine sarà? Perché mi scusi? Per pescare. Ah? Avanti, qua. Via, no, mi stavo luciando. Cercando di togliermi questa sonnolenza da dosso. E in via da te già mi stanno ascoltando adesso. Certo te, se uscite l'ora e mezza, io il martedì e il venerdì sta diventando pesante, ancora nulla. Ce la faccio più, no, fra, ui. Sono uscito alle 6:10 e sono rientrato alle 6. fatti un conto, tu sta comprando un quarto d'ora e ti dico un po', non sarò salito minimo 4-5 volte. Da Vidalba a Vignola, Vignola a Vidalba, Vidalba a Isola Rossa, Isola Rossa a Santa Maria Covinas. Poi se ho la schiena a pezzi oggi, a pezzi, quelle curve, quelle strade, per carità. Immagino, poi anche a me adesso sta dando fastidio a guidare, ma mi metto sempre cuscini dietro la schiena perché anch'io sto soffrendo di schiena. Avanti Marco. Ciao Claudio, me. Infatti chiedevo come mai non è rientrato ancora e Natalino ha spiegato che è il rientro e che è deleterio. Deleterio. Eia. Dai, riprendi Claudio. Ehi, vabbè, lavoro è quello e oramai. Già sono abituato, ma sto iniziando a prendere colpi, troppi chilometri, troppi. A mezzogiorno e mezzo mi hanno telefonato di scendere a Sassi da De Paolini, a Pedranieta, a mezzogiorno e mezzo, chiude a luna, tu immagineggiati, ero alla Marinetta, però c'è la tua fantasia, da qui. Da lì, tu a Sassi, sono partito a mezzogiorno e 20 dall'incrocio di Marinetta. Alla luna e 10 ero davanti all'officina di... Infatti mi ha aspettato perché chiudo la luna, dovevo fare una perizia alla macchina. Tu immagineggiati. Lì, finita la perizia, torna Marinetta. Vamos! Mamma mia che tortura! Deleterio, De Paolini, cos'è un'officina di revisioni, cos'è? Tutta la teoria convenzionata con la Disimplan. Se non mi hanno toccato il fiorino, un camion facendo manovra, quindi sono andato a farla, adesso l'ho portato da giovedì 20 e andata venerdì, capito, una macchina piccolina alla parafango sinistro, niente di particolare, però la macchina l'azienda lo vuole in ordine, quindi non avere manco un graffio, appena c'è qualcosa ci portano subito alla riparazione. Ma dico io, farlo martedì, tranquillo di mattina, no, niente. A corria, c'ho la schiena a pezzi davvero, mai, proprio a pezzi. Mi ho preso anche una bustina poc'anzi, giusto per alleviare un po', ma speriamo che passi, perché lavoro anche domani. Lavoro anche domani, sono libero domenica e lunedì, sono 6, 14, ok, 17, 24. Cioè lavori pure a Pasquetta, così è? Sì, mi sono salvato domenica, è rientrato il mio collega, se no dovevo fare domenica e lunedì, ma tu immagini anche lunedì, capito? Dalle 06 del mattino alle 14, dalle 17 alle 24. E dove vai a Pasqua? Dice, me ne sto a casa, sono stanco. E ho detto, bene, vedi che hai proprio attaccato a nessuna parte, ma sai che da nessuna parte. Sono a pranzo qua, mio cognato, via Pietornini, sono neanche un chilometro da casa mia. Quindi, pranzo, e come ho pranzato, me ne rientro a casa e mi metto in gioco. Devo riposare, sono una settimana allucinante. Tutta una settimana, questa che è chiusura è allucinante, quella che deve venire la settimana è pazzesca. Sto venendo i pibilistri a camellare, ci sono cose da fare, da consegnare, da finire, senza contare tutte le relazioni che devo fare, ma non ci voglio pensare. Farlo già da giudizio, io non arrivo alla pensione. Registrato, tranquillo Claudia, ci arriviamo, piano ci arriviamo. E poi tutta colpa io la do ai cellulari, da quando abbiamo questi cellulari siamo diventati reperibili in ogni luogo, e quindi ti rimbalzano da una parte all'altra, guarda, è un casino. Avanti Breck. Buonasera a tutti, Gianni doppio rumo. Ciao Gianni, ben sentito, dopo tanti anni, anche di te mi ricordo, sì. Dai, avanti Cla. Ehi, ciao Gia, buonasera, ben sentito. Sì, ma infatti io a volte faccio l'ognore, nel senso che non vedo squillare ufficio, non rispondo, non vedo squillare impianto sorso, non rispondo. E poi mi assidano e quindi rispondo per forza. E non rispondo al telefono, anche ho il telefono, ce l'avevo lì, non l'ho sentito. c'è un motore acceso, non lo sentite. E tanto lo so che sono rotture di scatto, l'hai capito? Rotture di scatto, però. Quello è quello che bisogna fare. Ma la vita me la dica gli altri qua, tu, questo incarico. Avanti, Natalia. Non è entrato il break, è entrato Gianni, non hai sentito? Vai Marco allora. Ehi, ciao Gian, ben entrato. E tu? A Pasqua, Pasquetta che fai? Io? Schifo. No, dico, non avranno, non saranno azzardati a farti lavorare, no? No, a Pasqua sono con degli amici, eccetera, eccetera. A Pasquetta lo so, c'è Marco e vediamo un po' cosa fa, non lo so, vediamo un po' ci faremo in giro. Ehi. Aspetta a Pasqua mi, ho Pasquetta, tutta la gente che torna sbronza mi, alla stradale battendo cassa. Sì, si vuole comunque, di Sassari, a Fatina. E allora, e comunque, davvero, sta cosa del bere è diventata seria, bere gente ubriaca fa danno. Poi certi sono proprio senza limiti, senza limiti, tipo guidavo ubriaco, senza assicurazione, con la patente scaduta o ritirata, e cosa vuoi, cosa, più che fucilarlo, cos'altro gli vuoi fare? Ehi, come quella barzelletta, gli avevano sequestrato la patente il giorno prima, mi sembra, lo fermo l'indomani, gli hanno richiesta, e lei gli ha detto, a chi già pensa, mi dai, te la giuro dalle mani. Ui, ui. Come quello che vi sentivo da poco, c'è la macchina che si ferma per far passare, mi pare, donna e bambina, no, la donna con la bambina, con lo scooter supera la macchina e investe la bambina e poi riparte, ed è un tipo che era senza assicurazione, patente ritirata mi pare. E quindi adesso gli hanno messo pure il sequestro del mezzo, omissione di soccorso, guida senza patente, e solo che c'è gente che vive così, vive ai limiti della, non ai limiti, ben oltre i limiti della legalità, magari se ne frega poi. Cioè se deve guidare guidami, poi se mette sotto qualcuno scappa ovviamente. Sì, se non gli tocca pagare tutto di tasca, lo credo. Avanti Gian. Interessate, restare sempre nei limiti, non bisogna mai esagerare, bisogna sempre trovare il di mezzo in tutto, si mangia, si beve, ma sempre con moderazione. Sai dove è pericoloso già? Quando vai nei paesi, no, comincia, è buffa, e se non bevi si offendono, capito? E devi bere sempre. E poi torni a zig zag con la macchina. Ah, no, io nei paesi. A me guarda che a loro me lo smerdato, una volta siamo andati al bar, mio cognato, povera c'era dei paesi, quindi è entrata gente, stavamo per prendere, ha detto, pago io, svegli tranquillo, c'è come sono nei paesi. E loro hanno detto no, e no, che tu sei un ospite, e paghiamo noi. Beh, paga il primo giro, il mio cognato vuole pagare il secondo. E loro niente, sempre loro volevano pagare. Alla fine ho detto basta, perché non ce la facevo più. Ma sai cosa mi hanno dato? Un pacchetto di cicogne su un piatto. E cioè l'hanno fatto per smerdarmi, come dire che ero ancora ragazzino e che non ce la facevo bene. Perché secondo certi l'uomo vero deve bere, no? Deve bere un bel uomo vero. Che bella mentalità che hanno con Sardegna, mamma mia. Più nel Norese questa, Sì, lì non ne parliamo. Lì guai se entri in un bar che c'è gente che conosci. È buffa. E se non bevi si offendono. E se si offendono i noresi, guai. Io guarda, ho la fortuna di avere una moglie che guida, quindi per il rientro non ho problemi. Sì, ci vuole sempre la persona. Sì, quando andava a nonno Florinas, vabbè, io ero ragazzo, 18enne, no? Sempre andavano alle cantine a provare, a assaggiare i vini. e io sempre non bevevo, rifiutavo sempre, e chiedevano, ma come mai, in sardo lo dicevano, ma si capiva, come mai tuo nipote non beve? E beh, grazie a Dio che non bevo, io non fumo e non bevo. Sono due cose che non mi interessano, cioè, posso bere una 0,20 proprio a pranzo se proprio, ma io preferisco sempre acqua, l'acqua, pura e semplice acqua, l'unica vera che ti risetta, al massimo bibite, Coca-Cola, lanciate, però gli alcolici non li digerisco bene, dai. Ma fino a dire che c'è stata una bottiglia di rum da poco. Per esempio, vedi, in pizzeria ho preso Montenegro come digestivo, quello che è, amaro, come lo vuoi chiamare, però finisce tutto lì, capito? Ma c'è gente, birra, birra, altro giro, birra, altro giro, birra, altro giro, birra. Cioè, se tu guardi i tavolini, se tu vai in via Roma, no? E guardi i tavolini dei gruppi giovanotti con le giovanotte, no? Ragazzi e ragazze. Ogni tavolino vedi birra, birra, birra, birra e birra. Cioè non vedi nessuno che piglia caffetteria, che piglia Coca-Cola, no? Sempre solo birra. Questo degli alcolici però, cioè si prendono perché l'alcol fa da lubrificante sociale, capito? Come l'ha definito qualcuno. Cioè ti toglie i freni inibitori, quindi fai amicizia più spesso, no? Per quello si beve sempre tra i giovani. Poi vabbè, quelli delle discoteche non ne parliamo, quelli si fumano il cannone, si spronzano superalcolici e in più si pigliano le pasticche e poi li trovi collassati fuori e se li devono portare via in ambulanza. E anche gente di 14 anni, mi. E poi la soglia del bere sta abbassando, 13 anni cominciano a bere, forse anche 12 anni se trovano l'amico gli compra da beuzia, si mettono a bere anche con l'età. Poi non parliamo dei cannoni, non parliamo delle pasticche in discoteca, tutte cose che io ho sempre ripudiato. E non sono tutti così, no, ma se facevano l'erba un fascio, non sono tutti così. No, no, ce ne sono parecchio, ce ne sono parecchio. Molte ragazze, ragazzine, io le vedo con la birra, la bottiglia della birra, ha ragione. Anche nelle discoteche arrivano già verso le 3 di notte, già confettate, come si dice in sassarese, così è Marco. Sì, perché prima si carburano ben bene, no? Arrivano già carburati in discoteca, poi sai cos'è già? La maggior parte è così. Cioè alla fine succede che in una combriccola se uno non beve è lo sfigato, dice non sei nostro amico, non fai parte del gruppo, capito? Ti isolano, se tu non bevi come loro, non ti sponzi come loro, non fumi cannoni come loro, ti isolano, capito? E rischi di passare per lo sfigato, però io ho preferito sempre passare per lo sfigato invece di bere, sponzarmi, fumare cannoni e tutto il resto. Cioè io sono sempre controcorrente, capito? Non seguo mode, se tutti bevono io non bevo, se tutti fumano cannoni io non fumo cannoni, capito? Sono stato sempre controcorrente rispetto agli altri, vai Gianni. Sì, vabbè, non li fumi ma spacci. No, non ti ho capito Gianni. Ho detto non li fumi ma spacci. Ci manca solo quello, guarda. Beh, se spacciassi almeno avrei un bel soldi, invece sono. Devo sempre campare dei regalini di mamma e di mia zia in soldi. Oppure mi sto vendendo pure i baracchini per farmi qualche soldo, visto che ne avevo troppi. Sì, no, scherzo naturalmente. No, io dico la verità, io non sono di quelli che dico che non bevo, bevo quando capita, non è che sia una cosa che deve essere giornaliera e cose. Sono quelli che sono sempre con la birra la mattina, no, se capita con un amico, cioè beviamo la birra, io e via, niente da, no, capita raramente, dico la verità, non bevo molto, però mi piace una birra fresca, l'estate mi piace, dico la verità. Chiedo scusa, che mi devo assentare un attimo, devo mandare una mail, ascolta, ci sentiamo tra un po', occorre che per me, riprendi Marco. Ma senti, ho visto io bevendo whisky sotto i portici, ma Gianni, oggi è fuggire. Ma whisky, no, proprio whisky non mi piace, ciao, non mi piace proprio whisky, non mi piacciono quegli alcolici di rum, whisky, no, mi piace più il limoncino, la roba più dolce. Limoncino, cocomane, per digerire il mirto, il vino si sì. Un bicchiere completo, ma non è che sia proprio amante del vino. Qualche cosa, ma dirà. Ma sono come Luca che ogni sabato va a 20 ore si ubriaca. Tassiano mi tocca già, tra settimana. Poi dicevo, ma dico, ma Tassiano la birra non la bevo, forse mi incicio pure, va. Dimmi la Tarì. Non so pre, forse fa un passaggio lungo. Un po' di toni bassi, un po' cupetta, non troppo. Boh, Gianni, come ti sembra? Chiara di Atlanta, comunque non è male, è un po' chiusa come la Natalia, appena appena chiusa, ma già è passata. Scusate, QRX per me. Ciao Luca. Adesso ciao, buon QRX, dai. Adesso che cosa hai fatto Natalia? Come ti sei notato, forse ha migliorato. Se non è che hai cambiato il microfono, prova. E Claudio in parcheggio l'abbiamo lasciato. Claudio, avanti. Claudio, no, forse sta facendo roba, dai. Comunque si è staccato parecchio, staccato proprio. A destra, a sinistra facciamo una corda, dai. Caspita. Così proprio a... Boh. Mamma, c'è un po'... Vabbè. È migliorato, c'è sembrato... Mi manno un po' chiusa come era. Oh già, a questo smitter... Adesso vi spiego, sto usando lo smitter che ha il fondo scala 9+60. Gianni, a questo smitter tu sei 9+40. Vabbè, sono contento. E sono normale, non sono attaccato a niente. Sì, io invece sto usando 10 watt, cioè tutta la potenza RM dell'apparato. E tiepido dietro, solo tiepido, dai, meno male. Questo non scalda troppo, per fortuna. Vai Natale. Migliore. Cambiato la sera alla notte, Natale. Uglia sbadiglio. E beh, sapete niente se... Se Trump ha attaccato, mamma mia, sto temendomi, perché poi ci mette in mezzo la Russia, la Cina. Questo qui da quando è stato in piazza di Gazi. Eia, comunque la guerra iniziano così, Già Putin è contrario, poi la Cina magari non vuole esplosioni. Speriamo che non ci siano, speriamo vicino ai confini. Comunque la Corea del Nord ha rotto le scatole forse con questi di sparare missili verso il Giappone, le mare del Giappone, perché la Corea del Nord vuole, ce l'ha col Giappone, ce l'ha con la Corea del Sud, vuole, non so cosa vuol fare, c'è anche armi nucleari purtroppo. Avanti, da me sei bassissimo, dico la verità, sei molto molto basso. Ti ascolto per miracolo perché non ho guerra, se anche arrivo Radio 1 ti posso dare. Avanti, Marco. Beh, tutto te, io c'ho Santiago 4 di QRM e lui arriva a 5, è proprio nel QRM. Ma chi è? Gianni lo profeta lo stesso di ieri o quando era? Non lo capisco. Claudio, ci sei? Claudio non c'è. Claudio ormai è anziano, non ce la fa più col lavoro. Non ce la, sei proprio stanco, Claudio, perché non ti stendi a letto, ti stendi la schiena? Alle 7:05 mi sono svegliato oggi. Mi ha fatto 2 ore. Quindi la stanchezza che c'avevo. Vabbè, sono finito alle 3. Tra una cosa e l'altra ci sono fatte le 5:15, poi sono le 5 mi sono coricata. Stare circa alle 7:05. Già ho fatto dalle 6 alle 6 tutta una tirata, un quarto d'ora di pausa, alle circa 400 km oggi. Cos'è già? No, io non ho parlato, c'è qualcuno che ti ha salutato sul fondo, mi sembra che c'è quell'amico dalla corte, non so se lo sì. Vai, qualcuno arriva. Ciao Luca, l'ho salutato. Ciao Gianni il Profeta, dove sei? Oggi arrivi più basso di come arrivi normalmente, però arrivi lo stesso e non ho problemi ad accorgermi, ti sento. 5-5 sei qua. No, oggi arrivi, collina, non collina, vabbè. Io sono in alto, ti dicevo, 5-5. Va bene, fai girare Marco. Ciao Luca Ariello, fai girare tu Marco, sono qua comunque, sono mezzo stanco, un bel pezzo avanti a portare il cane. Beh, Claudio. È bello lì. Mi sono venuto a fare appunto la mamma, gliela ha fatto la mia ragazza, ecco un po' andiamo a mangiare, mangiamo la pizza stanotte, e poi andiamo a trovare un amico lì al circo, c'è karaoke. Cosa vuoi fare? Non ti puoi stare da casa, no? E poi verso mezzanotte, massimo un'ora ce ne rientriamo. No, io non volevo manco. Allora si è pronta la cena, mangiami qui. Mangio andare lungo, domani lavoro. Quindi dobbiamo stare di nuovo alle 5 e mezza. E cercare di finire le cose che ho lasciato stasera oggi, eh? Per poter insomma non incasinarmi di fine settimana. Vabbè. Avanti. Gianni, ripeti. Sta parlando con lui, in definitivo. Se sento qualcosa te lo dico. Va bene, va bene. Ok, cosa stavi dicendo, Rocky Root? Ho detto in definitivo, mi ha ricordato una persona, io che lo diceva in definitivo. Sono dopo un coglio di branco per le foto. Sai, ho visto la sua foto su Facebook. Ehi, guarda. Io se lo vedo mi fa piacere, ma se non lo vedo è meglio. Sì, vabbè. Mettiamoci un cantone sopra. Sì, cantone. Ti fa regalo un camion di ghiaia, io sopra, è puro, è da continuare. Luca, e dove andiamo stanotte? Ehi, al circo da un amico già, c'è a casa. Così con amici, poi a Barbara siamo un gruppetto, cioè insomma, mie cognate, miei fratelli, degli amici, così di Patamona, al sacco, tutto per stare un paio d'ore assieme. E poi verso le 6:30 io devo rientrare perché devo fare l'insulina a mamma. Vabbè. Ma lei non ce la fa, non riesce a fare. No, magari, già che è davvero avanti. Proprio forte, buonasera. Ehi, Massimiliano. No, non ce la fa, c'è. Già, sai cosa, che Mari poi si trova da sola e libera il panico, sai com'è, no? Allora preferisce qualcuno, cioè, ci sono io, perché gli altri proprio zero. Comunque ciao Massimiliano, avanti. Sì, dai, saluto a tutti, non l'ho fatto ascolto, non so neanche che ci sia. Buonasera a tutti comunque. Ciao Massimiliano, buonasera, dai. Io, Claudio, Marco, Luca, eccetera, eccetera, dai, positivo, va. Saluto a tutti. Riprendi Marco. Io, ciao Massimiliano, ben entrato. C'era anche Franco. Franco, hai ripreso? No, si è sentato. Va bene. Non so che dire, riprendete voi, dai. Sono senza parole. E tu Marco, perché stanno e tu cosa fai di bello? A Pasqua. Un cazzo. Niente, ne andiamo a Pasqua. E andare a Platamona così, a vederci un po' di sole. Niente di che, dai. Tanto le amicizie sono quelle che sono, quindi. Meglio niente. A Platamona a trovare la corretta e andare. Ciao, Massimiliano. Ciao Ciacco. A pagare il caffè alla ragazza va, porta l'uovo di Pasqua, poi se ne risale. No. Vabbè, sai se la ragazza passerà molto tempo con lei. Vabbè, puoi stare tutta la notte, mi vado. Anche tutto il giorno. Tanto vive sola. Pissà così, due anni fa sarà che avevo Marco. Quando sei soli è così, è normale, ma non si viene a tanto non è un bussino. Uia, per carità, va. Aspetta, ma voi state parlando di quella maggiera che c'è a Platamona? E allora? Passa via! Ma dove è la femmina, come ti mangia sempre i macarroni, no? Come ti dici? Ma è così, ogni cosa ti stanca. Io dietro là per cambiare. Ma c'è come adesso, Massimilia? Un po' nel negozio, un po' nel magazzino della Nutella. Marco, guarda, io ti do un consiglio, dalla mia c'è proprio trovato un amico. Meglio di te con un negro e ti fai, capito? Ma un'esperienza nuova potrebbe essere. Ma sono sicuro che con di più. No, c'è Filippo. Ma che? Mariato è qua. Cosa? Filippo è Mariato. Ma che? Dopo di Mangagliova. Cornicione e poi un travizzetto. Ah, sei tu? Ivan Cornicione che poi un travizzetto. Ah, ecco. Uia, per carità. Ma comunque è così, mi Marco, guarda che la donna non è così. Vabbè, io, la mia esperienza non è molta, perché io ne ho un bel poco. Non ne ho avuto tante, ne ho avuto. Quelle poche che ho avuto, però quando sei fisso è tutta un'altra musica, cambiano tante cose. Lo so, però boh, quello che ho beccato io, se volevano sposare, non te ne vai. Ma ce n'è una vicina a casa, se la vuoi conoscere, lei da tanti anni, mi pare che un giorno fa ancora metà l'anchi. Non ti capisco, Lu, sei troppo forte di radio. Ho detto che ce n'è una vicina a casa, poi la abbasso un po', e se la vuoi conoscere, da tanti, ma tanti anni che, capito, era secco. C'è anche il cerofone ancora in mezzo alle gambe. Tanti anni o tanti decenni? Tanti anni, proprio tanti decenni. Chissà cosa è, non chi è. Ma poi mi dà un po' di mutarsi, ma poi va di nuda. È più italiano per venire dei segni. Cosa è il traviso che c'è di sopra di te o lui? Morte? Siamo i bei bianchi, ma carità, proprio del muta chi, se siamo muri mai. Quella è bellina, c'è i capelli bianchi, un po' guasta, però già va bene. Anch'io sono guasto, no? Facciamo una bella coppia. Ah, claro, ma molta macchina da traina. Sì, c'è una molta macchina da traina. Sì, è stato un compito. Divide di mamma, mi uccidio, ecco lì. Siamo a Napoli, mi dà la dimensione, mi pare. Mi sa che c'è l'uvapo. Vabbè, però poi se non ci sono ci lamentiamo, se ci sono ci lamentiamo. Madonna santa. Io sono 38 anni, o 37, 38 forse, come Guglieri, Sant'Antonio mio. Vabbè, tocca campare. Mica ti sente, ti rompe il mattarello in testa, mi. Perché non mi sente? Se no è sorda, già intendi. Ma te l'ha detto, l'ho vista lì, a Lina, ad Anna, te l'ha detto? Sì, già me l'ha detto. Ma tu sei sempre un bel ragazzo. Ma beh, tu mi. Oia, ma che di cui sei prima, di gli altini. Ma poi lo so cosa dico io, cla. A me, sai, la gente che ha il vizio di dire, fare, no? Che piace la mia ragazza, e poi degli altri, poco me ne può fregare. No, ma infatti anch'io, ma poco mi interessa. Poco mi interessa, ma dicono gli altri. Importante che vada bene così, poi, che se ne affutti. Massimiliano, è sempre del tuo ballacchio, Ho messo un tanto, stavo andando a mangiare la tartaruga. Ah, la tartaruga c'è? Sì, di mia figlia, piccolina, quella di acquatica, là. Piuma. E si diventa di manni, mi Massimiliano, sai, mia nipote, la figlia di mio fratello ha portato, ce l'aveva comprata la fetta grande, no? Ma non sai quanto è grande, ma grande è diventata, fratello, ma scusa un attimo, ma perché non la metti, non la molli in qualche fiume perché è di acqua dolce, no? No, mamma, ma capita, c'ha il guscio grande quanto è il 440, mamma è diventata, le pinne grandi, infatti c'è una vasca grande, prima c'aveva la sua vaschettina, no? Io da anni che non la vedevo, la giudica mi gioca sul caldo, e se le metti il dito dentro, ti ne lo sega, invece lei le dà da mangiare con la mano. Anche questa abituata, dipende come l'abitui là. E ma quando diventa manna gli caro, sai cosa faccio? Vado lì al parco dello Serrato, facevo la piscina, ti ricordo il rento, e ce ne saranno centinaio lì dentro. Sì, perché soffrono, la piccolina va bene, però visto che sei riuscito a fare la grande cetta, gli ho detto a mia nipote, non c'è Cristo, tornare a me, da zio, la porto al fiume che c'è lì a Santa Maria Colina, c'è la diventa ciappa, non sai che ammazza tutti i cicli, sono carnivori. Infatti è stato detto anche al telegiornale da poco che c'è gente che le libera e fa solo l'acqua, quando le libera nei fiumi si mangiano tutti i pesci. No, già, io ho un amico da forestale, quelle non fanno niente, sono quelle palustri, che quelle con la coda lunga, quelle sono carnivore, quella che c'è lì mangia la tuca, mangia di tutto, erba, le mette sì, ogni tanto qualche pezzettino di carne macinata, ma non è che l'aggredisce, si la mangia così, le piace più la verdura, capito, l'erba. I gamberetti secchi ci vogliono, quelli piccoli piccoli. E il mangiare suo, infatti, quello per la tartaruga è a base di questa cosa, così fa un fiago buttinoso, capito? Ma quelli palustri, la tartaruga è palustre, io l'ho vista, ma la gigante è mara. A parte che la tartaruga palustre può andare sia in acqua che a terra, perché c'ha le pinne praticamente girate e poi c'ha le unghie, quindi può camminare, perché tu la vedi, stanno a mano, io le vedo spesso, e c'hanno la coda già molto più lunga. E gli si sono carnivori, gli si vanno davvero, però quella lì non fa niente. Allora, Marco, io ne ho avuto due di tartarughe così, come dici, le ho buttate nell'acquario, come sono cresciute le ho date a mio cognato, ma non erano cresciute nemmeno più di tanto. Però nell'acquario non ci stavano più bene, perché seguivano i pesci, li mangiavano prima la coda e poi si mangiavano i pesci. Quando non sapevano nuotare, i pesci non potevano più nuotare, se li mangiavano. Beh, fatto sta che l'ho data a mio cognato, ce l'ha messo in un vascone di irrigazione che lui non usava più in campagna. C'aveva l'acqua, tutto quanto. Li puniamo a mangiare, il burattu. Un giorno sono andato in campagna, lui mi si è messo da sussare da cantina animale. Mamma di barone. Sì, già, però quelle palustre sono micidiali. Quelle mangiano i pesci, mangiano tutto la carne, mangiano tutto. Queste che tu compri piccoline così, sono tartarughine innocue, non fanno, perché mio fratello ce l'aveva così, comprato lo stesso la festa grande piccolina, e ce l'aveva nell'acquario, non ha mai toccato i pesci, poi quando è diventata un pochino più grande l'ha tolta, capito, l'ha tolta, non so cosa ha fatto, e ne ha comprato un'altra la migliore, ma dice Maria Gaia, la Lucio ma non canta tanto 4,40, è enorme, e Filippo, chi c'ho hai ragione, minore, dici, 8,20, dai, io mi preparo, ragazzi, riprendi Marco. Ehi, meno male che non vendono i coccodrilletti appena nati, come fanno in America, poi abbandonalo al fiume, che diventa un bestione. Tanto tempo fa li vendevano alla giostra, lo sai Marco, quelli che dici i coccodrilli piccoli. Oh, ma matti sono. Poi la gente come crescono li mollano al Coghinas e diventano caccia dei mostri, diventano. Ma ti parlo di un po' di tempo fa, ero ragazzino io. Andavo alla giostra matta quando vicino a casa, quando stavo vicino a Sacro Cuore. E lì c'avevano anche i coccodrilli piccoli, oltre i pesci rossi. Comunque Claudio, io ti dico una cosa, che ne ho avute con le tartarughe, sono carnivore, perché. Ti dico solo una cosa, tra poco ci metto mezzo l'acqua, la stavo col naso, la stavo facendo giocare, no, col naso, a un certo punto appunto mi ha aggrappato il labbro, cazzo non riuscivo più a staccarmi, ha un dolore da lancinare, sono carnivore, mangiano carne, se tu gli dai carne diventano dei bestioni. C'è gente che le dà anche mangime del cane, bagnato, e le fa diventare grandi, sia quelle che hai in corso, che è pirata. Oh già, io so della palustra che è carnivora, quella non so perché vedo che mangia questo mangime per le tartarughe. Sì, che a base di pesce sicuramente, se no appunto come anche Massimiliano per i gamberetti secchi. Però non mangia dalla mano, il tutto non è grande. Un po' grande, la coda è piccola, normale, mentre la palustra l'ho vista anche brutta, più scura, marrone, c'è cioè questo un colore strano, c'è la coda lunga, balonsolico, non mi piace, e poi nelle pinne c'ha le unghie anche, capito? Può camminare anche al bordo dei fiumi, dei laghi, eccetera, qua dolce, vabbè, comunque. Va bene, dai, riprendete voi che io vado a portare il cane, se ci siete a dopo, se lo ritenete tutti salutati. Aspetta, dimmi come va questa radio. Beh. Ma è centrata, perfetta. Sì, 0,75 decimale 0. Va bene, no. Molto probabilmente domani in partenza. Ma qual è quella che era qua? No, questo è l'8001. Bella. Bella radio, bella radio. Funziona benissimo, bella forte. Va bene Massimiliano, si ribatti. Avete un biglietto subito? No, già è qua stesso, in Sardegna, va. Domani sera viene a prenderla. Ma quella modificata? Ahia. E beh, poi la ti avanza di modifica. Ne hai altri bacchi? Sì, ne ho altri due. Posso sentire questo, mentre è morto. Guarda a vedere com'è. Cambio. Se bella, bella forte. Massimiliano, non ne abbiamo risposte di quell'altra roba che abbiamo messo? Negativo. Vabbè. L'ho messo anche su subito. Vabbè. Come mai alle fiere non vendono più quei paperotti gialli, belli piumosi, quelli con le zampe palmate, che diventano ocche grandi, non so cosa siano. Non li vendono più. È da vari anni che non li vedo più, niente sapete. Riprendo io un secondo che mi allontano, Mi allontano, riprendo subito, vado a pipparmi una ciccara. Sì, Massimiliano, anche quello è un brutto marco, ne ho avuto una a casa, quella lì, di Fettata Grafica, era una mansueta. Ci stava sempre appeso, Eia, erano così belli, gialli, piccolini, con queste zampe arancioni palmate, ed è da vari anni che non le vedo più. Non lo so perché, se c'è un motivo valido oppure semplicemente non li portano. Quelli sono belli da piccoli, però poi diventano un bestione, no? Ma sono papere o che, non ho capito cosa sono in realtà quei pulcini. Papere. Praticamente io l'ho avuta, quando si è fatta grande, poi mi ha detto che in casa non faceva più a tenerlo. L'ho dato a Marco, mio cognato, l'ha portata in campagna, ma se faceva la guardia, meglio quella lì che il cane, che quando arrivava la gente gli andava a pesce e scappa. Non saranno diventati animali protetti, no, visto che sono papere. E ormai qua è tutto un casino di oasi protetta, non puoi andare in pinetta, nemmeno a piedi. A seconda di dove vai è tutto recinto, tutto recintato. Ma vai, cioè che senso ha alla fine? Tutto parco, tutto protetto e non ci puoi mettere piede. Oppure ci vanno sempre gli amici degli amici, capito? Gli amici dei forestali, gli amici dei baracelli. Qua sta passando la via da te? È sotto casa. Fagli un gavettone di piscio. Ah, non parla di lucida. Sei satana. Anche di acqua va bene. Sei satana, ha detto. Sì, ya. Te le immagini. Natalino, riprendi? Hai messo... No, vabbè, riprendi. Qua dove? Questo quale? Ah, che modifica devi fare? Perché devi cambiare gli spinotti? Devi cambiare gli spinotti sul... Devi invertire i cavi? Vabbè, fai, non ti voglio interrompere. Sarebbe bello far vedere quei paperotti piccolini al gatto, ah? Magari ci romagna. Sì, non ti credi, sono piccolissimo, non ti credi, sono ben male. E ha detto Marco che non faceva arrivare gente a casa, che li perseguitava e li beccava. Vabbè, ma quando è pulcino, no? Quando è pulcino ancora, appena lo compri, è inoffensivo. Sa il gatto che faccia fa come lo vede? Magari gli viene l'istinto da predatore, lo prende per il collo e l'ammazza. Ma fa un casino in casa, spruzza tutti i muri, perché quando tu gli metti l'acqua per bere lui gioca con l'acqua, no? Col becco fa e poi schizza tutto qua, schizza i muri, perché a loro gli piace stare in acqua anche. Quindi dobbiamo avere un punto dove c'è dell'acqua e in più loro stanno anche in terra, sono diciamo anfibi. sarò qui l'acqua un po' in terra. Poi quando si buttava dentro, il contenitore dell'acqua e poi si lavava. Ehi, ci sono carini, però ci manca solo quello, mi far casino, mamma mia. Più che altro era per farlo vedere al gatto, per farlo giocare col gatto. Vabbè. Ma tanto non li vedono più, almeno alle fiere non li ho visti più. Né a San Gavino, né a Sassari, alle Bancarelle, quelli che vendono animali di tutti i tipi, no? Perché sai, gli uccellini sono piccoli, il gatto se li mangia davvero, poi se escono dalla gabbia volano dappertutto, non li prendi più. Comunque le tartarughine già sono male, io le ho viste avventandosi, anche da piccole mi, avventandosi nell'acquario contro il pesce, al negozio d'animali. Sono voraci, hanno questa bocca, quando l'aprono pare un forro. A me non me ne dica caso che avevo un piglio sotto qua. Le conosco, guarda. Una volta ho fatto lo sguardo di metterlo nell'acquario, stavano mangiando tutti i pesci. Si tagliava le code, come erano senza code, i pesci non riuscivano a nuotare e se li mangiava. Sì, quella... Poi se la metti nel fiume, nel lago, quello che è, quella si adatta, mangia quello che trova, se trova pesci mangia pesci, poi diventa una bestia bella grande. Oh, per carità, a noi c'era venuta l'insana idea quasi di pigliarci anche le tartarughine per provare, poi invece ci ho ripensato, meglio di no, non sia che questa, il gatto ci mette la zampa e lo morsica malamente e gli fa male al gatto. Quello non è problema, gli puoi dare carne macinata, gli puoi dare pezzi di carne, se la mangiano. Sono carnivori, non è... Sono felice perché mi si è attaccata all'acqua, io con l'altro la stavo facendo giocare, no? Si muove per l'altro nel muso e lì ha preso il sacco e mi ha morsicato l'altro, mi si è attaccata come si può staccare, ma dove la vuoi? Oh, peggio di una tenaglia, sembra che come serrano le fauci è come una tenaglia, figurati quando è grande, se ci metti il naso quando è grande il labbro te lo stacca. Sì, ma io ho deciso che c'è di lungata, l'ho presa nelle mandibole, gli ho fatto tipo una pizza nelle mandibole e ha mollato, quando ha mollato c'è un segno quasi per farmi il buco. Come? E quando mi ha mollato il labbro c'è proprio il segno quasi ad arrivare a farmi il buco. Caspita, minchia, eia, vabbè, e gli animali sono sempre un po' seccanti, almeno i gatti fanno nella sabbietta. Una volta ho visto dei mini criceti, erano dei criceti striati, microscopici, piccoli, però già adulti, non so nemmeno come si chiamassero, sembravano dei topolini minuscoli però col pelo più lungo, striato, molto bello il colore, se lo vede il gatto quello sì che se lo mangia, era piccolino, ma stava in un palmo di mano, al centro del palmo di mano. Io ho fatto criceti, boccettini d'India, e questi però tutti quanti con quello che ho fatto, un bel peso, hanno fatto anche film. Poi ho avuto i criceti, ho avuto gli scoiattoli, insomma ne ho avuto di animali. E io? Troppo amplificata. Troppo amplificata. Troppo amplificata. Guarda che quell'apparecchio già è amplificato di suo, se tu gli metti pure quello. Si sente un rumore sottofondo, Anthony, abbassa e tiro da voi in culo. Così va meglio, vai appena ancora. Buona, così a due. Prova a tre. Oh, troppo brutto per me. Fa un passaggio un po'. Capo, ti ascolto anche troppo forte, forse a due va meglio. È forte, è bella. Ma modificate quel microfono, attenzione. Fischiano, fatta lì sotto fuoco. Si sente uno strascico di innesco. Eia. Allora, i criceti li ho avuti anch'io per due volte. La prima volta erano tranquille, erano, mi pare, femmine, non mordevano nulla. Ma quelle che ha avuto la seconda volta, certi morsi, stack, ti dava, era più cattivi, Guarda, se ti prendi il cucino di linea, li puoi prendere in mano, accarezzare, sono come maschili. Non ti fanno nulla. Io li facevo anche il bagno, il cucino di linea sono come bimbi. L'unica cosa che c'è che devi spendere un po' di soldi, perché devi stare ogni giorno cambiando il fieno, se lo puzzano, devi cambiare il fieno spesso. Ma quelle hai detto, i porcellini o le cavie? Cosa hai detto? I porcellini di linea sono le cavie peruviane, la stessa cosa. Ah, così è. Eia, però quelli sono un po' troppo grandi per me, preferivo i ficetti. Solo che non so perché le femmine erano così brave, poi ha avuto un maschio e una femmina, ma avevano il vizio di azzannare. Per poco un giorno non li strozzo. Eia. No, io ti dico la verità, a me piacevano, è stata mia moglie che me li ha fatti prendere quando non ho avuto i figli, cioè vedi che tutto, tanto ti fanno spendere un sacco di soldi, poi sporcano, puzzano, fanno, devi stare sempre cambiando di questo fieno, e alla fine li avevo venduti con le cose di animali, di qua, non mi è sembrato quello, mando una cazzata, lui dice non te ne potrei accettare perché devo avere la fattura, te ne proprio così, in estremis, ma zitto, non dire niente perché non li posso prendere così. E adesso va bene. Già ti credo, Natalì. Sì, col doppio modulatore, cioè già normale è forte, se metti il doppio modulatore è ancora più forte, se in più metti l'amplificato alla tavola è una cosa terrificante, e poi innesca, così è molto migliore. Sì, poi puoi provare piano piano a alzare. Ma chi sta parlando? Tua moglie, se no sono inneschi, non si capisce chi sta parlando, il concetto se sono degli inneschi. Prendi se sta parlando. Infatti, è proprio il televisore che si sente. È un bel forte per me, non lo so, prova a passare a perdere. Sì, Natalì, secondo me è migliore. Sporca, è bella forte, dai. E il caldo dirà sempre alza, alza, alza. Perché la radio è pulita così, sparti. Ti viene in culo. Ma te la sporca. E perché non dovrebbe andare bene? Che te c'è forte con l'apparecchio, lui va benissimo. Il tempo è già entrato, sanno. Gente da... robetta bassina però, proprio terra terra. Invece sulla tripla 5 non sto entrando perché stavo usando l'omologato. Invece stasera alle 6:30, no alle 6:30, insomma quando sono entrato ho messo questo apparato, questo è il CRT 9009. Anche adesso, anzi le 8. Oh, raga, io vi saluto, sono a proteggere il cane, dai. Me l'ha fatta il sonno, me l'ha fatta oggi, proprio sono stanco morto, non capisco più nulla. Dai, vado e lo porto, e poi ci sentiamo domani, dai. Buona serata, buona continuazione, ciao a tutti. E a portare a Tarzo devo andare, a Tarzo alle 8, lo porto sempre. Faccio dalle 8 alle 8 e mezza, poi a stamania e poi vado col televisore. Ciao, ciao. Ciao Gianni, io vado a vedere il telegiornale in fretta. Ciao Natalì, ciao, lascio acceso qua. Non devo prendere quell'altro in mano. Ma non devo togliere l'altro in mano. tutti, alla prossima, ciao Natali, ciao a tutti. Troppo barattolosa con la radio, troppo forte. Sì? Sì, come ha detto Marcolino prima che ti rende la radio più forte. Non so forse mai effetto camera, vabbè dai che mi sta aspettando, se no mi piglia a botti, chissà, ci sentiamo alla prossima, ciao, ciao anche a Concetta, ciao, ciao Claudio a tutti, ciao. Ma siete andati? Fatta lì. A me piace un bel, si sente un bella musica Natali. A me piace un bel cavoletto, un bel forte, una radio che piace a me praticamente, nel senso che ha tonalità acute, medio alte, medio bassi, è bella, buona. Avete fatto quella modifica? Anche col megafos sciugioni al radio, bella, bella. Marco, la sentita? I documenti erano a rompire le magiche, capito? Tu lasciala così, così quando piazziamo l'antenna puoi usare anche questo microfono. A me piace, così deve essere la radio, allora, radio monotona. Prova a togliere a ver se cambia qualcosa, ma mi aveva detto Massimiliano che sono due linee separate. Naturale. Così che non ti piace questo microfono con megafos, è bellissima la modulazione, meglio di quella normale. Sì che mi piace, però lui prima ha attaccato anche il turbo compressore ed era una cosa, sentiva tutto il rumore di fondo. E con l'amplificato come quello non ci vuole il turbo compressore. Per esempio già a 3 comunque amplificava un po' troppo e sente la TV, sentono le voci di fondo, capito? Per quello. No, lascialo così Natali, senza attaccare un turbo. Quando devi attaccare un turbo, attacchi il turbo e le metti il microfono normale, capito? È un leggero, ecco, e va bene lo stesso. Però quando facciamo salotto va bene così. È ottima la radio, bella, chiara, forte e amplificata. Non è necessario, sono due ingressi completamente separati. Puoi addirittura parlare, fare due passaggi col microfono da palmo e con quello da tavolo. Puoi fare vedere la differenza. Davvero? Però è molto più cupo e c'è da dire anche quello, che quello amplificato, cioè quello normale è più neutro, cioè sembra la tua voce da in verticale, e l'altro è molto più cupo, diglielo anche questo Claudio. Fammela sentire meglio, ciao Massimiliano, c'è anche Massimiliano in lontananza, fammi sentire il passaggio col microfono normale e con l'altro, che così lo vediamo. Ma ci parli davanti o sei di fianco? Devi parlarci davanti al microfono per farmi capire. Ok, non è male, però Marco infatti ha ragione, è leggermente più cupa rispetto al microfono normale. Massimiliano? Non leggermente, è un bel più cupo. Così è meglio se ti avvicini. Ehi, se ti avvicini migliora moltissimo, ma è un più 4 o un più 5, Natali? Magari vedi lì un più 5 sarebbe più adeguato perché puoi regolare le tonalità, capito? È proprio questione di tonalità, però come ti ha detto Massimiliano, avvicinandoti più al microfono, togli il cupo praticamente sparisce, non del tutto, ma comunque va molto meglio. Marco? Sì, va bene. Comunque, caspita, dal microfono normale, diciamo che il microfono, se è l'originale dell'Omega Force, non è normale. Quello è già amplificato di suo e c'ha proprio il circuitino dentro, o precompresso che sia. Sì, Come ha detto Claudio, se tu hai avuto l'MB più 5, ecco perché io dico sempre a tutti, comprate l'MB più 5, non pigliate il 4, perché col 5 avresti potuto correggere i toni e mettere il tono pari a quello da palmo, capito Natali? Natali, provo a aumentare appena appena il microfono, ma io non vedo questa grande differenza, ho aumentato parecchio la radio, mica che ne ho la radio è tutta a manetta. Così è molto meglio, te l'ha tolto un bel po' di cupo. Sì, così è abbastanza buono, comunque. Sì, confermo. Molto, rispetto a prima, sì, vero Massimile? Sì, sì, così è molto meglio. Ascolta, però tu hai tolto quella specie di... come si dice? Quel Top Gun, come lo vuoi mettere, là, come lo vuoi dire? Prova a inserirlo con questa regolazione della radio, vedo cosa succede. Cazzo, la radio è tutta una raguba, però. Faremmo ma troppo. Per regolare appena, abbassare appena il microfono è molto superiore così la radio. Io questa non l'avevo sentita, è favolosa, ho ragione Massimiliano, Marco. Adesso fai la regolazione leggermente col tuo pignano acceso, attaccato. Prova con Massimiliano a lunga distanza. Io così ti sento perfetto, ma proprio bene. Sì, sì, no, già la conosco quella radio, ce l'ho anche avuta, capito? La conosco molto bene. Sì, sì, va bene, io lo sento bene. Marco, tu che sei più vicino? Non saprei. Io so solo che col microfono originale, senza doppio modulatore è più limpida la radio, col doppio modulatore si sporca di un tantinino. Io avrei preferito niente doppio modulatore e alzare il microfono MB4. Prova a fare questa cosa, prova Natali, togli il doppio modulatore, buone tutta a manetta, vabbè. Alza. Ah, cosa non puoi alzare, alza, mettila a 5, inizia a essere cupa, no Massimiliano, cosa dici Marco? Lui deve parlare sempre alla stessa distanza dal mic e di fronte, perché da 4 a 5 non ho sentito aumento, fammi il passaggio chiaro, adesso è a 4 e adesso è a 5, fammelo sentire proprio in diretta, non c'è baruta. Io lo sento un po' cupa così. Anch'io te l'ho detto, un po' cupa, era meglio a te, però Marco, il problema è che tu sei molto vicino a Natalino, con quell'antenna, figurati con l'antenna grande, capito? Io che sono più distante, che mi arrivo intorno al 9, 9,5, riesco a sentirlo bene, però con la regolazione che ha fatto Massimiliano andava meglio. Anche secondo me andava meglio. Così, Natali, prova a vedere ancora, a aumentare quel microfono, mettilo a 6, 7 a vedere cosa succede. Così sta iniziando a migliorare. Ma per Marco sicuramente è troppo forte, così è Marco. E io quello gli volevo dire quando tu non c'eri, cioè di non alzarla troppo, perché sennò ci fa sordi. Cioè per esempio Claudio, anche tu sei fortissimo Claudio, di modulazione, cioè quando entra Gianfranco io per te devo abbassare, per lui devo alzare un bel... È un casino, cioè è inutile avere queste radio spropositate quando parla in città. E che poi arriva quello con la radio bassa e devi stare alza, abbassa. Io non posso passare più di più, no? Io ce l'ho uno, mi chi con i miei 60 processore inserito. Posso solo quando toglierti il processore, così è senza processore. E basta. Non posso fare altro io, perché se lo metto a meno di uno non esce il microfono. Lo so, così sei a livello di Gianfranco per dire, solo che è banale come radio, allora è meglio alta e abbassa il volume. Abbiamo preso per voi la moglie di Imbriaga e la bambina. Io avrei messo il doppio modulatore, avrei messo il Mickey Gain della radio a 8 e quello del microfono a 1,5. Secondo me. Prova, ciao, bravo, non si era ben sentito. No, io voglio una Mercedes, ho fatto una Mercedes, non posso fare il traffico diretto. E se no cosa ci va a fare sta radio Marco? Poi magari se entra Gianfranco per essere la pari sua che siamo noi tre e sta col processore, no? È sempre così modulato, da lontano 1985, questa è la mia modulazione, non l'ho mai cambiata io perché Baracchini l'ho usato tanti, però linea di massima con il microfono da qualcosa di diverso, e questa è la mia e questa la rimane. Ciao Franco, buonasera, avanti cambio. Ciao Claudio, ciao Massimiliano, facciamo anche a... Allora mi sono dimenticato pure il nome. Va bene, dai. E poi non ricordo. E niente, poco fa diciamo che Natalino qua mi arrivava quasi 5 di radio e mi arrivava con lo doppio, col doppio modulatore, mi arrivava. Era una bella radio, anche se segnale 2, però come radio era bellissima. È bella chiara anche, non sorge niente. Era bellissimo, però adesso si è abbassato parecchio, addirittura non riesco neanche a capire la rimodulazione. Avanti a te Massimiliano, buonasera. Sì, ciao Fra, buonasera, ben ascoltato. Ma io la preferisco così col doppio modulatore, la radio deve essere un po' forte, ma sono sicuro che poi quando piazzerà l'antenna quella grande a Marco lo ammazza, proprio una cosa impressionante. Vediamo un po', Natalino, hai sentito a Franco? Guarda, per me Natalino puoi aumentare ancora un altro pelino il microfono. Così è bella, io la sento benissimo così la modulazione. Franco? Sì. Va bene. L'ascolto meglio di poco fa. Il problema, Franco e Massimiliano, è che con l'antenna piccola a Marco gli arriva 9.15, 9.20. Quindi immaginiamoci con l'antenna grande, sono molto vicini ed è per quello che lo sente molto forte. Però io qua, che sono un po' più distante, nonostante abbia segnale di 9.95, la radio è molto forte, per me va bene. Il problema è per Marco, che è sempre il solito problema, no? Anche quando ero via Pascoli eravamo tutti vicini e quindi dovevo cercare di bilanciare un po' la radio. Il problema è quando si è vicini, capito? Ma sicuramente Natalino poi con l'antenna grande avrai anche una diversa trasmissione, capito? Marco, così cosa ti sei? Ma noi arriva a cazzo, qua è 6 a picchi di 9, 9, 5 mi. Sì, vabbè, a parte il segnale, sempre toni bassi sento, cioè tu non sei come, non esci come Natalino, e nemmeno Claudio esce come Natalino, io sento troppi toni bassi, bisognava avere un regolatore di tono, tipo l'MB più 5 e alzare i toni. Anche perché questo apparecchio che sto usando ha una ricezione calda rispetto al 3009. 3009 riceve acuto, quindi Natalino avrei sentito ancora bene col 3009, ma con questo no. Cioè si capisce tutto, si capisce il 100% di quello che dice, però c'è troppi bassi per me, non mi piaci. Allora fai una cosa, visto che tu non hai un armadio di queste baracchine, attacca al 3009, no? Ok, dai, adesso l'attacco, un attimino. Non è il problema di Natalino, il problema è che quel tipo di baracchino che c'è tu lo ricevi così, ma visto che ne è tanti e lo senti bene col 3009, attacca al 3009. Non è così, Claudio. Ma infatti è sempre un piccolo baracchino, attacca al 3009 che hai riscontrato che tra quelli che hai è quello che ti soddisfa di più come ricezione, così un po' più equa la risposta per Natalino, perché ti ripeto, io l'ascolto benissimo, Franco lo sente bene, la regolazione è ottima così, io sulla radio sto molto attento, capito? Può essere zero di segnale, però se la radio è 5 ti do 5, e così non c'è niente da fare, no? Poi io ripeto, è una vita che trasmetto con questo tipo di radio, stesso microfono e la modulazione non cambierà mai, solo che chiaramente quando c'è qualcuno un po' più basso devo adeguarmi anch'io, quindi posso solo staccare il processore perché io qua al 440 ce l'ho a 1 proprio, 1, metto lo 0 e l'1, neanche a 1, perciò non io posso sollevare di più, se no i vostri soldi, perché questa da quando l'ho mandata a mettere a posto posso tenerlo anche a 2, 3, non va in distorsione, quindi quello però no, però mi serve invece. Va bene, e allora avrà tutto a posto, libero? Tutto a posto, ma libero niente, devo andare Francia devo andare, dai, alle 9, devo meno 10, devo partire. E niente, sì, ma purtroppo la tua modulazione, a parte il microfono, come ha detto tu poco fa, che la radio che stiamo usando, più la MC60, è la tua timbrica quella lì. Tu se usi o 140 o 180 o 440 hai sempre la stessa timbrica. Anche se usi un baracchino c'è la stessa timbrica, basta usare un piccolo amplificato e ti cambia la modulazione. Sì, ma infatti io quando uso adesso tanto non uso il DAC perché avevo invertito le connessioni al tale più 3 all'MB più 4. Se no si attacca un DAC con il tale più 3 all'MB più 4, la modulazione non è che cambia molto da questa, assolutamente. La timbrica mia è quella lì, ma anche Natalino c'è una bella timbrica, perché quando avevo il 440 ci scambiavano di persona, quindi riesce a portare anche lui molto bene questi tipi di radio. E per me quella la sta portando benissimo, il problema è che Marco è troppo vicino, cioè con l'antenna della macchina gli arriva a 9 più 20, allora con l'antenna mannate fate una scala, dice Bedeggia, siete troppo vicini, ecco perché tu lo senti troppo forte, secondo me. Vediamo un po' se ha cambiato il radio Marco. Comunque specifichiamo, quello dell'apparecchio di prima riceve normale, cioè tutti gli altri apparecchi, il 5005, il Super Jobbix che sarebbe come il Pluto, quelli ricevono tutti normale, è il 3009 che ha l'anomalia di ricevere acuto, spieghiamolo, non è questo apparecchio che ha l'eccezione normale, è questo che la riceve più cupa di tutti gli altri apparecchi che ho avuto, capito? Avanti Natali, proviamo. Non mi piace per niente, non lo so, non è limpida come quando usi il microfono normale di quell'apparato, assolutamente, non è per niente limpida, anche con questo apparato è così, non è solo l'altro, allora avevo ragione io, invece Massimiliano è un bijou, Claudio è un bijou, Franco è un bijou con la modulazione, a quella non mi piace. Sì Marco, ma io sto usando una radio diversa da quella che usa Natalino, non è, sto usando C80 con l'MC60. Sì, ma è bella, è più bella, Natalino lo sento più cupo, troppi bassi, poi può essere anche, diciamo, il fatto che non mi piaccia può essere anche rilevante, cioè a me non piacciono i toni bassi, ma io lo sento cupo, poi strano che Claudio lo senta bene, non lo so. Lo sento bene, sto ricevendo con la 440, adesso secondo cambio il cavo di alimentazione e accendo il 430 a vedere se cambia qualcosa, ma non è che è quello, non c'entra a fare, io lo sento bene, però ti devo dire che tu hai cambiato oggi una notte, non so se lo sia Franco, Massimiliano e Natalino hanno notato, perché anche tu con l'altra è leggermente cupo, con questa è favolosa la modulazione, o sbaglio una o Massimiliano? No, questa è, allora, quell'altra non è che era cupa, era leggermente più bassa come modulazione, questa è un pochino più forte come, è più prepotente come tipo di radio, però anche l'altra esce bene, no, io non lo sentivo cupo, la verità, questa è molto molto più forte di modulazione, mi piace di più. E pensa che c'è l'LC chiuso, qua c'è l'LC chiuso, questo è omologato, l'ho lasciato proprio chiuso perché per averlo omologato. Ma adesso faccio una domanda a Claudio, tu come lo senti di tono Natalino? Come sto uscendo io mi senti o lo senti più cupo? Ma avete due voci diverse, come fai a fare questi paragoni? Vabbè dai, ci ho tentato, dai. Poi state usando anche due radio totalmente diverse. Paragone si fa con due radio uguali e MB più 4, tutte e due uguali. Natalino è più molto che vivo, è la voce di chissà, vero Natalino? Cazzo, è più morto che vivo. Sì, lo sento, sento anche rimbombare, sento così, non lo so. Vabbè, dai. Natalino. lì ci voleva uno con i toni regolabili. Io perché ho comprato l'MP più 5 alla prima e non l'MP qua? Per avere i toni regolabili, è una cosa quella per me indispensabile, perché se ci cupola fa più chiara, se ci troppa cupola fa più bassa il tono, tutto lì. Poi può non piacere a me, però Claudio, comunque si capisce al 100% di quello che dici, solo che è rimbombante, non lo so, è questione di gusti, dai, abbiamo capito. Natali. Natali. Fai come ha fatto Giuseppe Leoncino, prova a girarlo al contrario il microfono, fai questa prova. Guarda ogni differenza, Marco, eh? Ogni differenza, parla a lungo, no, Natali. No, io sento questo sotto, accompagnato alla voce, sento così, non mi piace, non ascolto, non mi piace. Poi sarà questione dei gusti, non mi piace. Dai, riprendete. Forse ha migliorato pure, però vedi Claudio è più forte di te, è fortissimo, eppure non esce meglio, capito? Fate vobis, dai, io so solo che il microfono normale, il microfono amplificato di serie dell'Omega Force esce molto più chiaro, toni più bilanciati e tutto, dai. Sotto lì, sei molto vicino ed è diverso, dai, la modulazione la senti diversa per quello lì. Oh, va bene, dai, io vi saluto, ce la ascoltiamo tutte le prossimine e buon proseguo di serata. Ciao Massimiliano, ciao Marco e ciao Claudio, buon proseguo di serata a tutti, ciao, avanti Massimiliano. Sì, ciao Fra, dai, buon trabacco, buon di tutto, buon continuo di serata e buona Pasqua, alle prossimine, avanti Fra. Ciao Fra. Buon lavoro anche io, ma tu quando sei scendi io gioco a me, quindi non c'è problema, siamo pari, dai. Ciao Fra, buona Pasqua, se non ci sentiamo domani e domenica, saluti a casa, buon lavoro, avanti Marco. Ehi, ciao Franco, dai, buona Pasqua, io domani immagino che entrerò, domani che è sabato. Vabbè. Guarda, ho provato anche a attenuarlo Natalino, l'ho attenuato, però a 2 già migliora, secondo me a 2 migliora. L'ho portato a Santiago 1, 2, così. E i toni sono toni, cioè l'amplificazione è una cosa, ma i toni sono quelli. Ok, dai, se ne cambio, buona Pasqua, buon tutto, dai, ce l'ascoltiamo alle prossimine. Se non mi sente Natalino, salutatelo. Lascialo così a 2, Natali, lascialo a 2, va bene lo stesso. Natali, ma infatti come ce li hai? Tutti aperti o tutti chiusi? Prova invece a abbassare leggermente. Manco lo vede. È migliorato così, eh? Natali, mettilo a 20 watt anziché 20 watt, c'è il wattimetro, regolalo a 20 watt, non a 40. Mettilo a 20 watt. Ma modulati o portante muta? Abbassalo a 10, Natali. Marco. Un po' migliorato, forse era al limite dei watt, proprio stava, non aveva manco picchi, magari stava saturando. E già picchi da 7 a 9 più 5. E qua lo stesso. E qua arriva 9 più 15, già con 10 watt, prima, pensa quanto arrivava. Oi oi, vabbè, va bene. Tanto lì, ma con la radio, con la... abbassa ancora? Non lo senti più. No, no, solleva, solleva. A 10 come lasciarlo. No, se no non ti arriva più, Massimiliano. Qua non hai calato niente, mi. Marco, però io questa me l'aspetto, quando la tarina ho presa la penna sul dolore. Anche 9,5 con quell'antennino, 9,5, tu ce l'hai a 9,15 con l'antennino. Quando muove l'antenna a mano ti crepa tutti da te. Oh, lascialo così, per me potresti anche leggermente aumentare il microfono, per me. Bella modulazione Natalia, 10 watt, di quasi in saturazione. Ma guarda che con 10 watt così c'è una bella modulazione Natalia, capito? Io l'avrei lasciata così, così è bella veramente. L'antenna grande te lo puoi permettere sicuramente, da 10 watt sei 9 qua, quindi con questa antenna di macchina viva di due. No, non sto dicendo quello, Natalia, lo so che non ti hanno fottuto la potenza, però dico, per l'avvicinata che avrete sarà un segnalone da Marco, perché ti dà 9,15 con l'antenna della macchina, voi che altre 15-20 dB non aumenti con l'antenna grande, quindi passerai sicuramente a 9,30 pieno, sicuramente. Anche qua arriverai fortissimo, Marco, 9,30 è quello che mi arriva più forte di tutti dalla zona praticamente verso giù, gli altri sono 9,25, 9,20, non salgono più di quello, ma Marco supera 9,30 abbondantemente. Guarda, Natalino mi arriverà sicuramente con l'antenna esterna come Salvatore, che è lo stesso in quella zona. Quello che hai preso tu è ultimo, ce l'ho anche io su, io ho solo la calata a Camille di discesa perché c'ho una calata solo, ma tutti gli ispettori che vanno al commutatore elettronico della Meritrong sono tutti di quel cavo che hai preso tu, è favoloso quel cavo, va bene. Il problema è che è troppo alto, te ne stava mangiando tutta la radio, hai capito, di saturazione e non riuscivi a fare le regolazioni. Anche questa c'è molto bene, questa è bella la radio. Sì, così sì, Natalia, 10 watt per regione Massimiliano. Per me adesso 6,5 perfetto, tonalità medio-bassa, acuti giusti. Se Marco è troppo vicino è quello il problema, però secondo me ha cambiato anche da te Marco, no? Sì, qualcosa ha cambiato, sì. E giustamente c'era già 40 watt, quell'apparecchio andava neanche più picchi. Perché invece se ne dà 10 portante muta, il resto glielo dà in picchi, capito? Prima era già manetta di watt. Ehi, ehi, vabbè. Dunque, per mio gusto personale, io preferisco le modulazioni squillanti, tutto lì. Tipo... come può essere anche... il nome! Noni! Sì, Massimiliano, e non mi veniva il nome. Guarda che io sto usando un classico CTE, normalissimo microfono da palmo. Esatto, sì, e mi piace di più perché è più squillante, ha i toni più acuti. Vabbè, no, e questa comunque l'8001 comunque esce molto bene come tipo di radio. Sì, l'8001, sì. Sì. Bene, dai, insomma, 100 orecchie e 100 pareri, dai, poche parole. No, il problema è, guarda, Marco, io lo stesso quando parlo al mio vicino qua lo sento malissimo, ma perché ce l'ho troppo vicino, capito, tutto qua, secondo me è proprio perché siete molto vicini, perché in lontananza Natalino sta uscendo veramente bene. Ora, avete qualche soldo, questo è il 430, e vabbè due passaggi posso fare, però differenza c'è Massimiliano. Questa è modulazione che mi piace di più del 44. Lo so, però c'è questo difetto che dopo un pochino si spegne la cosiddetta allo giamba, se a quello non mando a vedere che cos'è, non ce ne trovo. Grazie, Gianni. bella, a me piacciono così le radio. Allora, questo è il Mickey Game, era 2 e l'ho messo 1,5 di Mickey Game adesso, un pochino più alto rispetto al 440. Aspetta, rimane più corposa pure la modulazione, non strappa né nulla. No, non strappa, questa non, non è nulla da strappare. Guarda, 40-100, chiuppamela. Vabbè Marco, per dirti no, che le modulazioni non è che cambiano, sono quelle, sono quelle lì. Va bene, dai, prima che si fluia, se non mi sento riattacco di 440. Cazzo, cazzo di San Radio. Io. Già la mando. Ehi, mandato il 440, lo mando lì. Adesso c'ho altre cose a cui pensare, già la mandiamo dopo Pasqua, nel telefono a Biancone, e gliela mando, la faccio tutta revisionare. Capito? La faccio tutta revisionare. Ora. Ma è dove andiamo? Di solito si spegne quasi subito. Ora. Non c'è curata, vabbè comunque la cambio, dai. Lo metto al 440, c'è stato un break che mi pare davvero avanti. Il break per la Bismarck, non per il suo audio. Il break per la Bismarck. Perché mi senti meglio davvero rispetto alle altre volte? O ti arrivo sempre uguale? Giuseppe, rispondimi, mi fai venire ansia, ti ho chiesto, mi senti meglio o uguale? Porto. Mi hai bruciato il baracchino. Mosue. Ti sei spenta la radio, lo sapevo io, no? Non ti devo parlare così in fretta. Mamma mia, io metto. E se arrivi a cantare il mimo di Bottezza. Se non si cura, devo avere, se ho mantenuto la Bottezza terra. Genere, non serve a niente, serve a spaccare i timpani. Io sono col microfono normale e mi hai sentito anche abbastanza bene, c'è bisogno se di mettere, è come che io mettessi l'MB più 5 a 10 a spaccare i timpani e per che cosa poi? Allora io ce l'ho messo a 2, adesso ho messo a 1, uguale al 440, questa è la mia modulazione, uguale al 440, ce l'avevo a 2 e l'ho messo a 1. Se lo abbasso più di uno, te, non esce più. Sì, vedo che si muove, non esce più. Ehi. Vabbè, a uno è ancora passabile. Però in città, cioè, io certe volte parlo ormai che è normale, che bisogna c'è di mettere questi volumi esagerati, non c'è senso. Ci ascoltiamo tutti, mi anche con mic normali. Non ha già macchine normali io. Le macchine normali di queste radio sono dentro le buste, dentro l'armadio. Non ne ho mai usate le macchine normali in queste radio. E cosa devo usare? Stava giù 2M60 e col coso, con il microfono normale. Per comodità a me non piace, capito? Non ci vediamo, ieri hai messo la mano sopra il 430 per caso, perché tu c'hai le mani d'oro. È tutto perfetto, non vengo lo Smith, perché la luce è spenta. Sì, l'ho toccato. No, non torni, toccami il culo. Sì, va bene. Marco, mi non entrare nel canale 45 quando si muove le propagazioni, che ti si curvura, Sì, già sentito ogni tanto, per carità, questi è che esagerato, siamo da Non è vero, sì, vabbè, quella è un po' nella, nello spirito tipo camionisti, no? Però lo stile non mi piace. Ma comprendevo da dove va. Sì, guarda, tutte le persone, cioè, le persone modulano normali, lo dicono, e quello non è modo di modulare. Poi con questi rutti finali, capo. Oh, a tanta gente non le piace come si modula così, a questo così, capito? E vabbè, ognuno ha i suoi gusti. Avanti, Natali. Ah, è vero, tu c'è la C. No, invece Marco c'è la F, per quello che lo devi buttare fuori. Non lo voglio sentire, faccio il QSO e 45, che è poco importante, posso far abitare con uno. Bravo, Massimiliano, bravo. Quanto è passato? 10 minuti già ci sono con 4.30? All'incirca. 90 watt sono fermi, i picchi sono giusti, la radio sta andando. Vediamo. Stazionario 1, la porta 1. No. Ma lo fa voce, no? Sì. Oh, vediamo un po' Giuseppe che fine ha fatto il capolino. Oh, attento Giuseppe Alghero. Sassa richiama, pronto? Giuseppe, guarda il suo tessio. L'ho visto che ha messo la portante. L'ansia mi viene a me, l'ansia. Ah, raga, ne avevo che c'è radio, Rick. Oh, yeah, yeah. Mamma mia, come sto. Ma quando sei andata da qua, quella radio è morta completamente. Mondo me, mondo. Mondo, mondo. Devo rimanere qua e basta. Lui, non lo so. Vabbè. Non sto facendo bene, evidentemente, mi è mancata la luce. Non so se è attaccato il microfono. Giuseppe. Ma come rispondi? Mi fai venire gli incubi? No, io sono un incubo, sono io che certe volte mi si impasta la bocca e non posso rispondere, capito? Ah, ho capito, capito. L'importante è tutto a posto, la bocca si può impastare, l'importante è che si impasti il microfono. Tranquillo, tranquillo, tranquillo, sento benissimo Marco, sento benissimo l'altro specialista. No, se Santiago non fai più qua, radio perfetta, favolosa, anche se stai usando l'85, va bene Massimiliano che sta usando l'85 lui. Va benissimo, io l'ascolto bene, buonasera Giuseppe, Massimiliano va questa. Ciao Massimiliano, tanti saluti per la buona Pasqua, vai. Positivo, ben ascoltato, va. Io qua lo sento Santiago 3-4. Io per Alghero sono molto negativo però, comunque lo riesco a tirare fuori. Avanti Marco. Eia. Ciao Giuseppe, sì, non è molto forte nemmeno qua comunque come segnale. Riprendi dai Giuseppe. Marco, ti sento benissimo, ma non come Claudio, Beh, chiaro, no? Di Claudio c'è di uno e basta, Giuseppe, che paragoni fai? Ah, Bismarck, mi sto vedendo il 430S, che Massimiliano ieri è qua, gli ha messo la mano sopra e ancora non si è spento. Sono già 15 minuti che sto trasmettendo anche ad alta potenza, per dire 40 watt, 80 modulati, però ancora non si è spento. Voglio continuare a vedere fino a dove arriva. Cosa vuol dire? Era già qualche settimana spenta, non la stavo manco più accendendo perché ci provavo e 10 minuti e si spegneva, 10 minuti e si spegneva, allora per non fare danno l'ho messa da parte, dai. Ok, perfetto, però adesso sta funzionando, se continua a funzionare e se si spegne da commutiamo, sì, pronto? Perfetto, allora signori, non commutiamo niente, comunque la radio la sua accesa, voglio vedere se si spegne da sola. Nel frattempo vi saluto, ciao Giuseppe, buona Pasqua, fatti sentire magari domani. Ciao Massimiliano, saluti, baci e abbracci per te famiglia, ciao Tattalino, ci aggiorniamo domani, Marco, idem anche per te e mamma, Gianni Doppio Rumo se fosse l'ascolto, se va chiunque fosse l'ascolto. Buona Pasqua a tutti per chi non entra in questo canale, muovetevi bene, amatevi, e non rompiti i miricamagini. Ciao a tutti, a presto. La parrogia la riprendo io, anche a me mi hanno chiamato per cenare, va. Salutone a tutti con la buona serata e buona continuazione del QSO. Vai Marco, io non riprendo più. Saluto anche a Giuseppe D'Alghero, eh. Ciao ciao. Ciao Natali. Ciao, già sono qua, ma stava parlando Giuseppe. Tanto lì tu saremmo matto, non lo so io. È occupa, anche con questo apparecchio è occupa, non lo so, è tutto in bombate, non è radio quella da usare con quel microfono, non lo so, usa quello normale che ci bene e c'è la voce e vedo presenza, in poche parole. Forse bisogna trovare l'impostazione giusta o col manche che è in più basso, tipo a metà dell'apparato, non lo so, ci sono troppe regolazioni con la radio, il manche gain, il turbo, più il microfono esterno che è messo, quindi non lo so. Bene, tutti a mangiare, vanno, io vado a vedermi la TV, dai. Ci sentiamo domani. Salvo imprevisti, tocchiamo ferro, tocchiamo le palle, scusando. Ciao Giuseppe, buona Pasqua anche a te. Ciao anche a te, buona Pasqua, grazie, grazie, ciao. Ma sembra a me non rimbombante, ma qua ma che viene dalla radio? Sì Giuseppe, buona Pasqua, buona Pasquetta anche a te, dai. Buona Pasquetta. Migliore Natali. Cioè mi è sembrato meno rimbombante, mettendo le macchine dall'apparato a metà, dai. Oh. Quante prove per i baracchini, mamma mia. Vabbè. Dai che sono stanco un po', sono un po' suonatello, dai. Maledetta festa pure, non voglio bestemmiare, ma con la Pasqua un baffo me ne faccio, mi, della Pasqua e della Pasquetta, poi tanto meno come festa religiosa, mi. E vediamo, però baracchino non so se ne porterò, mi, Pasqua e Pasquetta, perché tanto sono tutti fuori, tutti in giro, quindi non ci sarà nessuno, dai. E vediamo, dai, se salvo imprevisti sempre, mi, mamma mia. Che non ci sia troppo vento anche, o troppo caldo. Ciao Massimiliano, vabbè ormai sono andati a mangiare, ciao Claudio eccetera. No, a me tocca a mezzanotte la cena, che ora di balordi, per carità. Anche uscendo presto non cambia l'orario. In questa casa non si riesce a rientrare nella normalità, sembriamo qua. Ehi, vabbè, non si riesce ad entrare in questa casa nella normalità, in nessuna, in tutti i sensi non si riesce a rientrare nella normalità, la carità, non mi ci fa pensare, vabbè, ciao Natali, buonanotte, vado a vedermi la TV, dai.